Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Pronto? Chi è? Sono Vittorio Feltri. Buonasera. Ho letto e sentito delle dichiarazioni sconcertanti. Se mi fa la gentilezza di chiamare con un numero conosciuto. Numero quale? Perché se il numero io parlo... è il numero di Milano, è il numero della redazione di Milano. No, se non conoscete numero, perché non fate un cazzo lì al sud. Non è ma che cosa fa? Non fate niente al sud e risponde con volgarità alte. Io ho chiesto solo di parlare e di rendermi conto. Ma come si permette? Ma come si permette? Ma come si vada a lavorare lei? Vada a lavorare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. L'ho detto e lo ripeto in forma compendiata. Alla fase 2 non seguirà una fase 3 e poi la fine di questo incubo? No, alla fase 2 seguirà la fase 1, cioè il ritorno agli arresti domiciliari, detti pudicamente lockdown, e quindi alla reclusione coatta di un'intera nazione. Ma va suca! Signore! On uncertain terms, I put gin in my milk to kill all the germs as I pray for the day. Maledetti! È un popolo di burattini, di marionette. Questo è il popolo di marionette. Allora popolo, non rompete più la minchia anche voi. See, I really like you, but I'm nothing like you. I try really hard, but don't get so far. You get my respect. Il professor Tangrillo continua a dirmi tachipirigna. Forever, I love you forever. Oh, ritardato, adesso ti smerdo io perché è 3 giorni che sparli delle cazzate. L'hanno detto alla zanzara perché dicono cose inesatte. Un poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter. Io direi, Salvatore, se mi accendi la lucetta rossa, di partire immediatamente con la prima telefonata. Non vedo la lucetta rossa. Come mai? La lucetta rossa non si accende, come mai? Vi ordino di telefonare al numero di sovraimpressione. Eh? Chi è? Come mai non telefonate? Porca puttana. Oh. E che succede? Scusate, ha ricacciato un urlo ieri. Me lo volete prendere l'urlo che ha cacciato ieri? Isolatemelo, cazzo, non è che ve lo devo dire io. Isolatemi così, l'urlo tu di Benson così, in diretta così, da via Monterosa. Siamo carichi, siamo qui da questo bunker. Fino adesso il Covid, finora il Covid non è entrato. Oppure se è entrato lo abbiamo respinto. Toccata naturalmente a pelle mia, di La Corte e del signor Ramelli dietro le quinte. Dietro le quinte. Oggi ha detto al dietro le quinte, signor Ramelli, tocchiamoci a pelle, finora non ha varcato questa soglia, caro Parenzo. Il bunker del Mossad, collegato in diretta, eccolo qui, applausi, applausi. Buonasera cari amici, un piccolo errore, non sono più collegato dal bunker del Mossad, dalla mia solita località. Come? Ma ho cambiato località segreta, ma lo svelerò nelle prossime ore. Come cazzo è possibile? Cioè, non sei più nel bunker super riparato, eccetera. Ma che roba sono è? In un'altra località e ho le prove, ma... tranquillo, siamo qui, trasmettiamo con grande lucidità in 4G alla grandissima, siamo qui ma però sei qui dove? Stai tranquillo. Sei qui dove? In casa? Sempre... allora è un altro appartamento. Dovete sapere. Adesso facciamo chiarezza su questa cosa. Dovete sapere. È un'altra località, è un'altra città. Proprio, è un'altra città. Non puoi perché non ti puoi spostare. Allora, ragazzi, Alcuni motivi che mi consentono di spostarmi. Svelerò tutto nelle prossime ore. Non avere fretta. Però facciamo chiarezza. Parenzo non solo ha un appartamento, anche un altro appartamento. Ma va bene, tutto. La gente è stata in 40 metri quadrati, sta cominciando a uscire. Una roba incredibile. Sei un mestatore. Allora, ragazzi, Sgarbone ieri sera a Quarta Repubblica. Iniziamo subito forte perché ormai è tornato decisamente all'attacco. Vai. Abbiamo capito oggi che siamo stati arrestati da incoscienti, incapaci, ignoranti, che ci hanno convinto con la paura che stare in tre a casa propria o stare gli stessi tre su una spiaggia era diverso, non era diverso, era meglio stare sulla spiaggia. Quindi se io multo quegli stessi tre che vanno su quella spiaggia da soli, faccio un abuso gravissimo contro il buon senso, la logica, la verità, i diritti. E poi dice: in Germania si può andare in spiaggia. In Germania sono in spiaggia a distanza di un metro. Oltretutto, non ho mai visto assembramenti in bicicletta. Le biciclette in tempi normali sono un numero limitato, tolto che a Ferrara. Io vado in bicicletta, nessuno me lo deve impedire e nessuno mi contagia. Comunque, ragazzi, al di là di questo, perché ormai c'è un libera tutti. Ma non dei fatti. No. La logica ha ragione lui, ma era impossibile arrivare a questi risultati senza il lockdown, cioè senza chiudere. Le persone avrebbero continuato a muoversi liberamente. Nei fatti ha ragione lui che quando sei in spiaggia da solo non ti puoi contagiare. Cioè, dal punto di vista logico, ormai hanno rotto il cazzo. Se uno ha una seconda casa, se uno vuole andare in una seconda casa in un'altra regione, se uno vuole andare in un'altra regione con tutte le protezioni del caso, perché devono ancora rompere i coglioni? Cioè, tu, importante è che tu non crei contagio, importante non essere in 50, in 20, in 30, nello stesso posto. Ma se tu, singolo, vai in un posto per trovare qualcuno, o se vuoi andare nella tua seconda casa barricato. Io sì, te lo dico, io vorrei andare nella mia seconda casa barricato. Barricato in un posto isolato. Ah, quindi hai una seconda casa. Finalmente, cari amici della GDF, vale a dire Guardia di Finanza, finalmente lo ammettiamo, hai una seconda casa. Casa in Umbria di 500 metri quadri con 72 olivi secolari, dai quali produci anche dell'olio. Quindi c'è un mostruoso conflitto di interessi per il quale vuoi andare in Umbria a produrre l'olio anziché continuare a produrre reddito per gli industriali. Questo è lo scandalo di oggi che va segnalato. Se non voglio incidenti mortali, non uso più la macchina. Se non pensiamo che il rischio è comunque in qualunque azione dell'uomo, una volta che abbiamo un'epidemia controllabile, che è, come dimostra il caso di Porro e Zingaretti, poco più, non poco meno, di un raffreddore, cerco di evitarla, ma se la prendo mi passa, non voglio. L'autorità imposta è violenza contro la democrazia. L'ordine non c'è perché non sanno niente, non dicono niente, fanno confusione e tu hai una regione in cui si agisce in un modo con buoni risultati e un'altra grandissima e straordinaria in cui forse l'errore è stato di alcuni medici. Se un giorno qualcuno vorrà dire ma mio padre in Veneto non sarebbe morto, potrà fare la denuncia. Che siano morti alcuni medici è cosa dolorosa, ma prova che non avevano capito neanche su di loro il rischio. Comunque c'è una cosa fondamentale che è questa, perché io questo me lo domando ormai da giorni, da settimane, a due giorni dalla riapertura me lo domando in maniera ancora più forte, perché il Molise, l'Umbria, che praticamente hanno zero contagi, devono avere le stesse, praticamente, poi lascia perdere i casi singoli, la gente come si comporta, eccetera, devono avere le stesse cazzo di regole di questo luogo disgraziato in cui ci troviamo, chiamasi Lombardia o del Piemonte? Perché molto devono semplice. Avere le stesse regole? Sono non è possibile. Gli stessi governatori che stanno allerta e preferiscono non aprire tutto. Sono gli stessi governatori spesso. Altrimenti farebbero come in Veneto, dove il Veneto va per i cazzi propri. ogni regione sta andando per la Campania fa altre scelte, ma le regioni che tu hai citato hanno dei governatori Non c'è alcun rischio, si dica, non c'è rischio andare in bicicletta, nei parchi, nelle spiagge. È inutile che continuiamo a dire, ma chissà perché, chissà, quello che non sappiamo spesso non c'è. L'hanno imposto come un terrore, è il terrore questo. A proposito di terrore, ragazzi, oggi ancora una volta bisogna darsi una grattata di quelle mondiali. L'Italia in fase 2 rischia più morti che in fase 1. Questo è l'Imperial College di Londra. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, di cosa parliamo? Se l'apertura non viene accompagnata da tracciamento e molti più tamponi, e siccome l'effetto si vedrà tra 2-3 settimane, proprio mentre l'Italia rilasserà ancora di più le misure di contenimento, queste sono previsioni apocalittiche che non bisogna ascoltare. Bisogna ascoltare quelli come Bassetti che dicono che finirà tutto. Affidiamoci a questi, avranno qualcosa da dire di più, no? Rispetto all'Imperial College di Londra, dai. Comunque oggi la grande speranza, David, viene dal plasma, come sai, c'è una grande discussione, adesso noi non ce ne possiamo occupare, però c'è anche una grande divisione. Qualcuno dice, ma perché se questa cura al plasma significa prendere il plasma, riduco un po' in polvere la cosa, prendere il plasma dei guariti e metterlo dentro i malati, soprattutto i malati non gravi, diciamo, quelli con i primi sintomi. Ora, in questo ospedale di Mantova c'è un signore che si chiama De Donno, che è molto intervistato in queste ore, il quale dice, effettivamente, in polemica anche con Burioni, che lo ha preso in giro, Burioni lo ha un po' preso per il culo, lo ha un po' corretto, ha detto, beh, ma è una delle tante cose che girano, eccetera. Scusa, perché non dare credito a questa roba qua? Questa roba qua sarebbe risolutiva, significa che ce l'abbiamo fatta, certo, credito. Perché non bisogna dare credito? Trattate la scienza come il Monopoli, così, il Monopoli, via delle vittorie, parvi con lo stretto, parco delle vittorie. Senti questo De Donno, senti questo De Donno. La plasmaterapia in questo momento è l'unica terapia specifica contro il coronavirus. Nella nostra sperimentazione di fase 1 noi non abbiamo avuto un decesso, quindi abbiamo veramente in questi 48 pazienti arruolati con tutti i criteri del protocollo non abbiamo osservato un decesso. Tenuto conto di tutti i costi che noi andiamo a rielaborare, quindi il costo della sacca di vinile, il costo del personale, il costo delle macchine, il costo dei reagenti, ogni sacca da 600 millilitri costa 164 euro. Pochissimo. Vuol dire che una sacca da 300 millilitri, che è la dose paziente, costa 82 euro, quasi quanto gli integratori che spendiamo quando andiamo in palestra. Qualcuno si dice, è forse questo il problema, David, che costa così poco e invece vogliono le multinazionali, sto dicendo la teoria complottista naturalmente, le multinazionali vogliono farci aspettare il vaccino? Tu lo dici sicuramente, tu sei contro questa cura, sei diventato devi il dire megafono la di tutti i disadattati, sei contro d'Italia. Questa cura, tu sei perché sei il legato di tutti al mondo delle multinazionali. Diciamo la verità, diciamo le cose come stanno. Sei legato al mondo delle multinazionali. No, io sono legato moltissimo all'AIFA, all'organizzazione mondiale delle multinazionali. Questa è la realtà. Sei dalla parte delle multinazionali. Sei pazzo, sei diventato ormai Light Parkona, il megafono di tutti. Sentiamo questo De Donno ancora che dice giustamente. Mi chiamano da ogni parte del mondo, perché non mi chiamano dall'Italia? Perché dall'Italia non lo chiamano questo qua? È un paranoico. Chi è paranoico? Perché delle paranoico? Siete dei paranoici, siete. Ogni volta che mi telefona qualche ente straniero, qualche console straniero, e non sento mai il mio istituto superiore di sanità, o non sento mai il mio ministro della salute, e capisce che sono grandi dolori per un ricercatore che fa innanzitutto il medico ospedaliero e che si è speso in prima fila durante la pandemia andando a lavorare di notte anche in pronto soccorso. Tu sei dalla parte, come al solito, del potere costituito. Ogni volta che tu vieni interpellato da qualche multinazionale, sbrodoli, vieni nelle mutande da solo. Questa è la realtà. Vengo. Sì, per sì. Permesso che non vengo interpellato. Sì, come no, vieni nelle mutande da solo. Perché? Da perché chiaramente vuoi stare a fianco di chi può procurarti. Lasciamo perdere. Queste sono delle querele, ma io mi faccio ricco con le querele che ti autofaccio alla trasmissione alla quale collaboro. Questo e sarebbe un paradosso impossibile. Dei paradossi. Questo sarebbe querelare comunque, l'altro ma guarda che è una cosa. La realtà è che tu sbrodoli, vieni nelle mutande, come se vieni nelle mutande. Ma ti sembra normale? In altri tempi Ruotolo avrebbe mai querelato Santoro? Ecco, siamo al paradosso dei paradossi ormai. Mi tocca portarti in giudizio. Ti mi sto tocca dicendo portare che in giudizio la tu trasmissione, hai a che fare, la corte che ti accende con il microfono. Una multinazionale, ti porto tutti sbrodoli, vieni nelle mutande. Perché vieni nelle mutande ogni volta? Perché vieni nelle mutande? Perché ti sdinquisci, ti sciogli, godi quando senti parlare di multinazionali del farmaco, eccetera. Quello sì, tu quello godi, certo, godi no, ogni non volta. Nessun tipo di rapporto, invece purtroppo. Un piccolo dottore non di provincia, un piccolo pneumologo di provincia, ecco il grande che dice di aver guarito, certo, fare. Dice di aver guarito, viene ignorato dalla gente come te, dalla gente come Burioni, dalle persone che rappresentano un certo tu mondo. Sei, un sei certo quello mondo, che certo cavalcò mondo. Anche il metodo di Bella. No, io sei no, talmente io no. criminale che all'epoca e hai cavalcato Vannoni, quello delle ma quando mai? L'ho intervistato più volte, ma quando mai? Sei il portavoce di tutti gli psicotici d'Italia. Lorenzo dice sempre cose intelligenti, lo attaccano sempre, ma dice sempre cose molto intelligenti, è vero? Scusate il disturbo, ma è mezzanotte e 17 e vorrei dire al caro Lorenzo che sto per andare a Mignotte. La Zanzara. Sono tornate le prostitute sulla tangenziale di Foggia, questa sì che è riapertura, vai così, vai così. Sì, io vedo molto negativo. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Ciao Crux, ho fatto il seguente ragionamento. Ci veniamo da 3 mesi di quarantena, dove se siamo stati tutti ubbidienti, siamo tutti sani, perché siamo rimasti a casa. Quindi oggi è la giornata in cui possiamo andare tutti quanti a Troia tranquillamente, d'accordo? Quindi ragazzi, messaggio che vi do io, andate a Troia oggi, oggi stesso, questa sera, domani, dopodomani, andate a Troia in questi giorni, perché il rischio contagio pari allo zero. Saluti. E mi faccio una prugnetta, mi faccio crociare. Comunque ragazzi, a proposito dell'argomento sesso, che è sempre, come dire, un must di questa emissione radiofonica, io devo sentire anche i consigli del sessuologo. Per esempio un sessuologo, non so, spagnolo, che si chiama Francisco Cabello, che ci spiega come comportarsi nella fase 2, per evitare il contagio. Lui dice, non bisogna solamente limitare i cosiddetti rapporti selvaggi. Rapporti selvaggi, li chiama così, sesso orale e quello anale, ragazzi. Ma se senza sesso orale e sesso anale è meglio che non fai in cazzo, cioè è meglio. Ti ritiri a vita privata, stai lì, ti fai un paio di seghe, arrivederci, grazie. Ma no, anche, guardi una serie televisiva. Ma anche insomma, i salivosi baci alla francese. I salivosi baci alla francese. Cioè, praticamente, allora, non ti puoi slinguare come ti pare. Non ti puoi slinguare come ti pare. Ovviamente non con le persone con cui convivi, non con le persone, non con le compagne, diciamo, tradizionali, ma nei rapporti, diciamo, casuali, nei rapporti quelli più comuni, cioè nei rapporti che tu puoi avere al volo, diciamo, no? Quelle le prime conoscenze, oppure rapporti estemporanei. Cioè, ma senti qua, dice che bisogna limitare i baci francesi con la lingua ed evitare il faccia a faccia, solo baci stampati sulle labbra. Perché il contatto umano deve comunque proteggersi dalle goccioline di saliva che potrebbero essere contagiose. Ma ragazzi, ma come cazzo si fa? Ma come cazzo si fa solamente a dire una cosa di questo tipo che è impossibile? Impossibile, impossibile. Questo, ecco, bravo. Questo perché nella saliva e anche in alcuni casi nei liquidi biologici potrebbe esserci un'alta concentrazione di virus. Motivo per il quale esclude il sesso orale e quello anale, per esempio, dai rapporti. Io non lo so, cioè... Cioè, dimmi, dimmi tu se è una cosa possibile. Cioè, per esempio, grande attenzione quando si decide di consumare un rapporto con una persona nuova. Può essere pericoloso, soprattutto per i giovani che sono più incoscienti da questo punto di vista. Raccontatevi fantasie erotiche, datevi al sesso online oppure all'autoerotismo. Se siete vicini, mantenete però la distanza. Ragazzi, basta. Cioè, la gente non ne può più, come avete sentito, dopo due mesi e mezzo, la gente non ne può più da questo punto di vista. Ha bisogno del contatto fisico anche con un estraneo, prendendosi i propri rischi, responsabilità individuale, hai capito o no, David? Ci trattano come i bambini, ci stanno trattando ancora come i bambini. Allora, vi danno troppe regole, dici no, troppe regole. Ne danno troppo poche, ne danno troppo poche. Ma mettetevi da che sei un guastatore. Tu sei quello che nell'esercito si chiamava Fusaro, il genio fammi guastatore. Sentire Fusaro, fammi sentire ecco, Fusaro. Ecco, un'altra Fusaro, voce autorevole Fusaro, da aggiungere. L'ho detto e lo ripeto in forma compendiata. Alla fase 2 non seguirà una fase 3 e poi la fine di questo incubo, no, alla fase 2 seguirà la fase 1, cioè il ritorno agli arresti domiciliari detti pudicamente lockdown e quindi alla reclusione coatta di un'intera nazione. Allora cosa accadrà prossimamente? Accadrà che in sintesi ci danno la fase 2, quindi un'apparente libertà, dopodiché saliranno nuovamente i contagi e quindi si tornerà alla fase 1 e diranno che è colpa nostra, che è colpa nostra che non siamo stati in grado di gestire la nostra libertà, di mantenere le distanze sociali, che siamo stati irresponsabili e che quindi se ora finiamo di nuovo dentro agli arresti domiciliari per altri 3 mesi, ciò dipende soltanto da noi. E poi per la tua gioia Capezzone. Per la tua gioia oggi ti propongo Capezzone. Poi sarebbe 1, 2, 3 quando spiega così. Uno, ma vaffanculo. Alla grande, grandissimo. Io vi capisco, perché voi siete nelle vostre confortevoli case, ecco, a leggere importanti libri lui, che tutti ameremmo rileggere. Mettetevi nei panni di chi i soldi non ce l'ha. Solo lui si mette in quei panni. Ma questo è rivolto a te, David. Tu, cioè, ma è incredibile, passi il tempo nelle lui, tue lussuosissime case. Non lo so. Ma perché questi qua sono i primi che dicono voi? Ma lui dove sta? Dove sta? Sta con le pezze al culo. Lui che dice 1, 2, 3. Sta sempre seduto in uno studio televisivo. È pagato da Mediaset, è pagato dalla Verità. Ma che cazzo rompe i coglioni? Ma magari sta in una casa piccola, al contrario delle lussuosissime case. Ma lui accusa, ma non di c'è libri, pieno di libri. Capezzone, le lezioncine da Capezzone con il dito così. Allora voi, sempre voi, e voi. Ma dai, voi 1, 2, 3. Allora voi, ma voi chi? Ha ragione Nicola Porro, questi ci prendono gusto. Lo stesso Ricciardi, anziché andarsi a nascondere dietro un animale a pelo lungo dopo tutto quello che ha combinato, oggi fa un'intervista col dito alzato per dire: ah, se non fate i bravi, torniamo indietro con questa arietta, la stessa arietta di Conte ieri, lavatevi le mani, e della sindaca di Roma Raggi: ci hanno concesso i parchi, ve li dovete meritare. Ma dove pensate di essere? In Cina? E poi parla di esperimento neoautoritario. Nascondersi dietro a un animale a pelo lungo, ma che dice? Che dice? La tragedia è che in un paese del G8 questo esperimento neoautoritario ha quasi funzionato. Questa trasmissione è il quasi. È l'elogio della trasmissione in cui sta, tra l'altro, Esatto, nella quale Massimo lavora, da Roma, nella vai, quale è, come si può dire, a Bordero, direi. Massimo a Bordero, da Roma, vai. Comunque, Massimo, dimmi. Ma che me la dai a falla lì? Che me la dai a falla lì? Ne hai 18 e 57 che mo me cassi in 36. No, non ti preoccupare, stai tranquillo, di quello ma che no, ti pare. Di quello che ti pare, c'è tempo. A me mi mangi a fanculo dopo 30 no, minuti. No, dipende quello che dici. E vedi, stai perdendo tempo, dai. David... Dimmi, 70 giorni da bonifici, sì, e abbiamo finito di ascoltare la Zanzara. Sì. Andiamo a prenderci un caffè da Vanni, sì, e non sentiamo più gli involuti, i disadattati. Sì. Parleremo di Welbeck, parleremo del San Maria Volonté, sì, non sentiremo Welbeck, più Fabrizio, bravo, Bracconeri, non sentiremo, bravo, più Spadalino. Sì. Perché quelli si sentivano anche prima, più. Si sentivano anche prima quelli. No, eh, ma non ce l'hanno più, bravissimo, una finestra in più non ce l'avranno più. E che ne sai? Non ce l'hanno più, perché? Questa finestra. Perché? Finito. Perché? Bravo, perché? Bravo. Perché vuoi togliere la parola alla gente? Vuoi togliere la parola alle persone? No, voglio togliere la parola ai mediocri. Sì, e chi lo decide se uno è mediocre o no? Molto bene. Guarda, uno non vale uno. Tu hai fatto un capolavoro perché tu hai sentito l'uomo della strada che esibiva analisi senza averne la minima conoscenza, eh. E allora che hai pensato? Mo crea un'arena dove tutti possono dirla loro, dove, eh, dove sicuramente regneranno incompetenza, ignoranza e arroganza. Ma scusami, perché in queste settimane che cosa hanno dimostrato, diciamo, i famosi competenti? In queste settimane i famosi competenti, a partire da virologi, epidemiologi, Mianonno Incariola, Organizzazione Mondiale della Sanità, governi, controgoverni, sottosegretari, che cosa hanno dimostrato secondo te? Te lo dico, di essere una grande e magnifica Zanzara. Questa è la realtà dei fatti, questa è la realtà. Risponde, ma hai fatto una domanda, fammi rispondere. Anche risponde? L'ultimo stronzo dei virologi c'ha più competenza di un Fabrizio Bracconeri. Beh, sicuro. E chi te l'ha detto? Ma che so, questo, ma cosa c'entra? Detto? Questo, ma cosa c'entra? Ma uno che si contraddice quattro volte, tre, quattro volte, dice, e dovrebbe essere invece, come dire, il tempio della sapienza, il tempio, no, della, non dico della verità, ma bravo, almeno anche, bravo, solo del fatti silenzio. Fatti curare da Bracconeri. Fatti curare fatti da Bracconeri se ti viene il Covid, Cruciani. Bravo, esatto. Fatti curare da Bracconeri. Fatti curare da Donato, da Varese. Fatti David, curare da Mauro Damanto, Mali Mortacci. Siete contro la libertà di espressione, siete contro, certo, la libertà di espressione. Uno non vale uno. Ma battene, uno va. Fermi tutti, David, fermi tutti. Bravo, bravo. Il segnale orario vi è offerto da Burro Superiore Fratelli Brazzale, dalla filiera ecosostenibile, il sapore della felicità. La Zanzara. Quello che riesco a fare io, e certe volte meraviglia anche la mia persona, certe volte mi metto al pianoforte, compongo una nuova musica, poi il giorno dopo mi sveglio, la risento e dico, ma sei sicuro che l'hai fatta tu questa musica? Oppure qualcuno te l'ha suggerita di chissà qual'altra dimensione. La qualità dell'audio è pessima. Sono uscito per andare a comprare l'erba, c'è una quantità di fregna in giro inimmaginabile, sto soffrendo come un cane e aiuto, basta, pieno di giovanotte, giovanissime, teen a rotta de collo proprio, c'è il rischio pure che te mandano in galera, ci stanno pure jailbait. E niente, devo essere sincero, e se che bastano più. Help, send help please. La vostra app di merda è ancora giù, non funziona un cazzo, mai funziona. Ma ci fate i nomi e cognomi di chi ve la fa? Ma chi è sta gente? Ma li pagate anche? Fantastico Beppe. Entro nell'app per ascoltare la diretta, mi compare, vuoi aggiornare l'app? Certo cazzo, ho detto, oh, che finalmente l'ha messa a posto sta app di merda. Infatti non funziona. Non funziona. Grande, complimenti. Eccolo. Madonna. Con calma, vincerò anche questa battaglia, questa lotta contro questi cornuti, fitusi politici, ok? Ok, ora bloccatemi anche questo video, non vi preoccupate, buongiorno a tutti, Enzo. Al allora, se mi devo far arrestare, scusate, aspetto ancora qualche giorno. Ma nessuno piglio le bollette, piglio la ricevuta della banca che non mi è arrivato il credito, vado da quei cornuti a Montecitorio e mi faccio arrestare. Ma non ti arresta nessuno. Comunque, ragazzi, certe voci, caro Parenzo, solo alla Zanzara si possono ascoltare. Diciamola, sì, diciamola tutta, diciamola non verità. Lo direi con grande vanto, non lo direi come titolo di vanto, però per carità. Se intanto piace così. Ti voglio segnalare che da un paio di giorni è tornato in Italia, proveniente dalla Tunisia, forse te ne sarei accorto dalle cronache social, forse no, il generale Pappalardo. Il generale Pappalardo. Non seguo molto le sue vicende. Si è presentato all'aeroporto, amico mio, all'aeroporto, da Tunisi all'aeroporto, eccolo qua. Perché è tornato? Sono tornato a casa perché era da tempo che la gente chiedeva: il generale torna, abbiamo paura, non sappiamo cosa fare. Sono qui, sono tornato a casa. Sono in Italia finalmente. A nessuno chiedeva. Nessuno. Nessuno chiedeva. Nessuno. È da due mesi che tengono il popolo italiano chiuso e mi dicono per una pandemia. Dov'è sta pandemia? La pandemia è quella dell'asiatica, 4 milioni di morti. La pandemia è quella della spagnola, 50 milioni di morti. Qua abbiamo avuto 27 mila morti. E con 27.000 morti voi chiudete le persone in casa. Ma come si permettono? È un'influenza un pochettino più virulenta, per carità di Dio. Un pochettino più contagiosa. Bastava prendere delle precauzioni. Statevene a casa. Quando io prendo l'influenza, appunto, che faccio? Me ne sto a casa per una decina di giorni. Mi curo, non esco fuori. Ma è nel caso di andare in ospedale, a intasare gli ospedali. Ma com'è il caso? Ma vaglielo a dire a quelli di Bergamo, ma questo è scemo, io lo darei in pasto ai parenti di Bergamo questo qua. Io questo qui appena atterrato lo prenderei, atterrato a Roma, gli direi: lei generale Pappalardo, sì, sono il generale Pappalardo, bene, ci segua. Hanno appena riaperto oggi l'aeroporto Orio al Serio di Bergamo, caricato su un aereo, portato a Bergamo, portato da quei parenti che hanno perso i loro nonni, i loro padri, i loro zii per colpa del Covid. Dice: può ripetere a questi signori per cortesia questa sua simpatica teoria? Non andate in ospedale, glielo ripeta. Poi comunque Pappalardo si scatena. Conte colpevole perché ha fatto morire i propri figli. Senti Pappalardo. Conte non è responsabile. I 27.000 morti sono morti sotto Giuseppe Garibaldi? Sono morti questi 27.000 morti sotto Mazzini? Sono morti sotto Conte, perché non è stato capace di proteggere i propri figli. Di proteggere i propri figli, li ha fatti morire. Signor Vespa, signora Gruber, signora Annunziata, signor Mentana, signor Giletti, come mai non mi intervistate? Ma come, puoi rispondere tu, come mai non lo intervistano secondo te? Come mai? Perché non rispondi tu a questa domanda? Scusi, fermo qua, Freccero, che format c'è in gestazione? Che cosa abbiamo in gestazione, mi sembra? Cosa abbiamo, naturalmente, Carlo? Il cervello naturalmente ribolle di idee in giornate come questa di lockdown, in cui ancora non abbiamo i dati della tragedia imminente, naturalmente, del contagio che riprende. Ancora troppi virologi, no? Ancora troppi virologi in televisione. Dai, tutti i giorni il virologo. Naturalmente adesso c'è programmi... questa storia del plasma che può interessare un format, la storia plasma, del plasma iniettato, contro le multinazionali. È una grandissima idea. Naturalmente si dovrebbe prendere una persona a caso, Renzi, naturalmente. Ma perché Renzi? Si prende Renzi, gli si inietta il plasma, naturalmente, il plasma del Covid, però non quello del plasma del Covid. E si cerca, in laboratorio, dai, che funziona un esperimento, dai. Si ricostruisce naturalmente a Bibbiano un laboratorio come quello di Wuhan, naturalmente, come quello di Wuhan. Lì si porta naturalmente, si ricostruisce il laboratorio, dai, si fa un grande set a Bibbiano, sì, bellissimo, vero, sì. Un grande set televisivo, si rimette anche in circolo l'economia, le maestranze, si ritorna a lavorare, a produrre televisione, a produrre idee, naturalmente. Dicevamo, si ricostruisce un grande laboratorio a Bibbiano, si porta Renzi, gli si inietta il plasma, naturalmente. No, cioè il plasma e poi lo di si quelli monitora, malati, dici, di quelli già. Naturalmente, non dai, dei guariti, realtà, non dei guariti. La realtà. Cioè lo si fa diventare malato di Covid. Lo si fa diventare... potrebbe essere naturalmente un'idea, naturalmente, perché bisogna vedere sull'organismo diverso che tipo di reazione ha il virus, naturalmente, è una prova empirica, naturalmente, altro che questa scienza di televisione, di virologi che blati, io voglio vedere il virologo al lavoro, e poi al lavoro, 24 ore su 24 corpo, telecamere, naturalmente, telecamere monitorato, monitorare naturalmente minuto dopo minuto il dramma che sale, naturalmente, okay, l'effetto del virus va monitorato, ma perché proprio su Renzi? La TV perché è un grande microscopio, dai, che è stato lui a fare il complotto, lui lo fa. E allora naturalmente la politica al servizio del cittadino non può che scegliere lui, ma deciderà la gente con il televoto, naturalmente, sulla RAI, quale politico inietta, no? Naturalmente, ecco l'idea naturalmente nuova, naturalmente nuova, dai, cioè il plasma di quelli guariti, se darlo o non darlo a Renzi, sì, o ai politici, naturalmente così, una gogna, una sorta di gogna, si chiama popolo sovrano, naturalmente. Ma no, quello già c'è, popolo sovrano. Cioè, l'idea, scusi, se non ho sbagliato, è questo. Se non ho sbagliato, è questo. Dunque, titolo, tira su. Titolo, popolo sovrano. Rifletto, popolo sovrano. Rifletto, popolo, sì, poi, naturalmente, sì, sì, politici, in primis Renzi, col virus, se non ce l'hanno iniettato, diciamo, iniettato. Iniettarlo, naturalmente. E il popolo sceglie da casa. Se iniettare salvare, il plasma non salvare, col salvare plasma. Non salvare, tutto in diretta con questi grandi collegamenti, con le sedi di partito, col i militanti che dicono salvatelo, viene, salvatelo. Il sangue, naturalmente, è la realtà, esiste il sangue, non lo invento mica io, naturalmente esiste, devi farlo vedere in televisione, non è radio, è TV. Dai, TV, è la regola base, McLuhan, Marshall McLuhan, no, non l'avete studiato, okay. Guy Debord. E come fa? Guy Debord. Cioè il sangue viene, telecamere fisse dove anche, ovunque naturalmente. Ovunque del sangue, naturalmente adesso ci sono anche delle telecamere che si possono addirittura iniettare dentro il corpo, delle microcamere, naturalmente, microcamere, gli effetti non si sanno naturalmente, per fortuna ancora, di questi microchip con telecamera. Ma certo, la TV deve andare avanti, è lo spettacolo prima di tutto, dai, siete ancora fermi a format vecchi, ancora vedo ancora che c'è ancora Porta a Porta, sì, dai, è vero, c'è Porta a Porta con la musica di Via Col Vento, io avevo due a quella musica lì, quel signore lì ancora con la stessa fa, dai, non funziona più. Marco da Palermo, vai, è una cosa incredibile. Il giornalista sempre gentile, allora lei cosa pensa? Il politico seduto su una poltrona bianca, la musica di Via Col Vento. No, la gogna, ci vuole la gogna. Noioso, dai. La gogna col politico praticamente che si decide se vive o muore il pubblico che naturalmente decide. È un modo per dare la parola naturalmente ai cittadini, visto che non si vota da anni ormai. Beh, naturalmente facciamo fa, almeno votare in non si vota mai in Italia, dai, che non hanno sospeso la democrazia, almeno riportiamo la democrazia in televisione, democrazia televisiva, telecrazia, dai, su Marco non c'è Stefano da Varese, vai. Sì, ciao, io ti volevo dire, dopo due mesi di quarantena mi sembra anche il momento di effettuare le critiche nei confronti del governo. Io direi che questi qua se ne devono andare a casa a calci ma nel culo. Chi? Ma chi? Ma secondo te è stata gestita questa emergenza in modo congruo, in modo opportuno? Ma di chi stai parlando? Del governo? Di chi stai parlando? Del governo. Quando ci sarà l'occasione, quando ci daranno l'occasione, quando ci torneranno a far votare... Li manderai a pedate nel culo, prenderai a pedate nel culo. Dovremmo ma fare che cosa vuoi andare? A Montecitorio, come dicono alcuni, sotto con i forconi a cacciare il governo? No, quando ci sarà l'opportunità. Ma guarda, sì, infatti, quando ci sarà l'opportunità, ma già ti pare normale che situazioni totalmente diverse come quelle che abbiamo avuto all'interno delle regioni d'Italia vengano gestite tutte alla stessa maniera? In Sicilia non c'è mai stata un'emergenza coronavirus, 200 morti ci sono stati in 6 milioni di abitanti. Ma io sono d'accordo su questa cosa qua. La Sicilia dovrebbe andare per i cazzi suoi, fottersi in tutte queste regole generali. Stefano da Varese, vai Stefano, dimmi. Io sono Stefano Cruciato. Sì, che cazzo ne so. Sandro da Firenze, vai Sandro. No, anzi, Renato da Roma. Buonasera, sono io? Sì, sì, fino a prova contraria, sì, sei tu. Altrimenti sì. Vuoi fare finta di essere un altro. Poi... Dicevo soltanto se era toccato a me. Vabbè, comunque. No, io ho sentito poco fa alla radio... che affermava che la libertà personale appunto anche in questi momenti è sacra, e ho sentito anche che affermavi che assumerti le tue responsabilità nel caso in cui anche Michele Caruso, troglodita mori, No, non è Michele Caruso, non è Michele Caruso. Sembrava però, no, giustamente no, no, la colpa. No, non è Michele non Caruso. Non sono Michele Caruso. Renato, cosa vuoi? Non ho capito bene. Sapere se, dicevi prima, no, che ti assumevi le tue responsabilità anche nel caso in cui avessi avuto rapporti, diciamo, con, tra virgolette, occasionali, e quindi nel caso in cui ti fosse preso il coronavirus in quelle circostanze, no? Io non ho detto io non ho detto questo per niente. Io ho detto semplicemente che alcuni consigli dei sessuologi in questo periodo, cioè di evitare i rapporti occasionali, sono ridicoli dopo due mesi e mezzo. Ognuno si prende le sue responsabilità. Se vuoi conoscere una persona che ancora non conosci, la conosci, ci slingui e più o meno speri che non abbia il Covid. Non è che due mesi e mezzo vuoi blindare le relazioni occasionali dicendo no, cioè non si possono fare perché sono un rischio. Ma che roba è? Sono un rischio. Va bene, saranno un rischio, non sai persone. Chi hai di fronte, d'accordo? Non è che gli puoi chiedere la patente, però, la patente di immunità, quando no, hai fatto il test, hai fatto quell'altro test, non lo puoi fare perché è una follia. Purtroppo la situazione è questa, e dunque ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Vuoi incontrare uno? Ti vuoi trombare cosa uno? Significa? Sì, ti vuoi cosa trombare uno che non significa che ti vuoi trombare uno che non conosci, non è che infetti tutto il mondo. Ti tromberai uno o una si tromberà uno che non conosce, certo, o che ha conosciuto certo la stessa sera, assumendosene la responsabilità. Punto e basta. Non è che gli puoi chiedere scusa, l'hai fatto il tampone? Scusa, l'hai fatto test sierologico? No, cioè, bisogna vivere. A un certo punto bisogna vivere. Fermo là. Sì. La zanzara. A tutti quelli che mi dite che sono carciofara, che mi dico, pescivendola, fruttarola, ignorante, troglodita, inghia tutti i radical chic siete, inghia tutti i dottrinati siete, vorrei vedere il vostro curriculum vito, chi siete nella vita, pezzi di merda. Io potevo essere stipendiata. Stasera starei più su un Edoardo Bennato, e sull'isola che non c'è, per non smettere mai di sognare. Tanto la conoscono tutti, tranne quei tre sfigatelli che continuano a scrivere sbirri infami e porco qui e porco là. Ma quelli che vengono qua a insultare i poliziotti e i carabinieri, se hanno bisogno di una mano, chi chiamano? Chi chiamano Carola? Chiamano Bella Ciao? Chi chiamano? Se qualcuno, Dio non voglia, vi aggredisce, se vi rubano la macchina, il portafoglio, il telefonino, la bicicletta, chi chiamate? Perché per coerenza, se siete qua a scrivere sbirri infami, carabinieri infami, non chiamate polizia e carabinieri, vero? Chi chiamate? Chiamate Fabio Fazio, così vi dà una mano. Oppure Roberto Saviano. Pazienza. Seconda stella destra, questo è il cammino. E poi dritti, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola, che non c'è. Alessio, mamma mia, se mi sente Edoardo Bennato mi tira due schiaffoni. Saluto Barbara, saluto Jack Paolucci con una riflessione importante. Matteo fascista di merda, con due M, analfabetello. A Salvini piacciono i piselli. Oh, oh, oh, battutone, sì, io adoro. Ho un bilocale che è quello che era della mia nonna e poi della mia mamma, però c'è tutto il necessario, c'è una cucina, c'è un salottino, c'è il corridoio, c'è il bagno, c'è la camera da letto e c'è il balcone. Come tanti italiani, due locali, se preferisci miliardari, per carità, io non ho nessuna invidia, nessuna gelosia, perché chi guadagna tanto significa che lavora tanto e quindi buon per loro. Io mi accontento di quello che il buon Dio mi dà. E che riferimento è questo qua? Che riferimento è questo qua? Riattaccate. Che riferimento è questo qua, eh? Il bilocale, se preferisci la casa dei milionari. Ma c'è il Braulio? Il Braulio non mi avete messo il sorso di Braulio a un certo punto. A un certo punto sbrocca sul sorso di Braulio. Mi censurate pure. Ma che censurate? C'è una connessione di merda, siete c'hai. Siete vergognosi. C'è un bilocale normale. non è un invito a bere, mezzo, ripeto, un micro sorso alla vostra salute. Salvini, ma lei fa i bocchini. Roberto d'Ancona, vai Roberto. Ma guarda d'Ancona, che incredibile sta cosa. Fa marchette, fa le marchette al Braulio e va benissimo. Ma che marchette, Braulio. Il Braulio. In più parla del suo bilocale che per carità è ereditato dalla nonna e viva benissimo. Ma adesso non è che deve fare per forza quello povero, lui che ha sempre fatto solo politica, guadagnando anche cifre importanti facendo politica. C'ha il bilocale della nonna, benissimo, nessuno glielo toglie. Ma perché deve leggere i commenti che lo insultano tutto il giorno? Ma perché, è un format. Ma che senso ha? Ma scusa, è un format, è un format. A parte format, che non ci fa neanche bella figura perché sembra che lo insulti dalla mattina alla sera più che altro. Ma è un format, il grande format, il grandissimo format. Sì, sì, fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri e mi scopo Giusy Ferreri. Ma scusa, ma sembra che la gente lo guardi per insultarlo tutto il giorno. Ma no, però lui prende i commenti e prende i commenti più violenti e li poi fa la marchettina, nel senso, amici. Ma perché non ti piace amici, questo format? È un grande format, la verità. Debole, dai, che noioso. Cioè, tu vorresti direttamente debole. il confronto, non virtuale. Dai, non si vede niente, non si vede la rissa, l'aggressività, è solo raccontata. Va bene per la radio, dai, non è televisione. Su. Vogliono multare la trasmissione di Mario Giordano per istigazione all'odio. Siamo alla follia, magari proveranno a mettere il bavaglio anche a Massimo Giletti perché ha osato portare alla luce una vergogna incredibile che riguarda il ministro della giustizia e il ministero della giustizia, sospetti veramente preoccupanti avanzati da un magistrato antimafia oltretutto, e andremo fino in fondo per avere chiarezza a nome degli italiani. Vogliono multare Giordano, però posso dirti, andate fino in fondo caro Salvini, visto che quella nomina fu fatta quando erano tuoi alleati, vabbè, di governo. Questo è un altro discorso. Vabbè, tu censuri la verità, censuri questa questione. Posso la fare nomina un annuncio, fu fatta quando la Lega era annuncio in governo e non disse una parola all'epoca, e tu complice io con un silenzio assordante. Silenzio, e adesso me alzate il ditino. Quella nomina fu fatta quando il ministro Bonafede era alleato della Lega, e la Lega in silenzio e Cruciani zitto. Allora posso dirti una cosa, a me di chi è stato nominato a capo del DAP, a chi è stato nominato a capo del non me ne frega un cazzo. Niente, ma no, nulla che ti frega, cioè, della cos'è figa, l'unica cosa. Però che posso dirti, questo, come disse una volta Feltri, no, a parte questo posso dirti una cosa, ma noi agli italiani che cosa gliene frega? No, gli dovrebbe ma che cosa invece gliene frega, certo, non è che importa. L'unico depositario dell'antimafia si chiama Di Matteo e gli altri sono tutti dubbio degli stronzi, dai, su, questo non c'è dubbio, questo è il punto, no? C'è un magistrato che va in televisione e fa delle dietrologie su un ministro, ma questo è il vero scandalo, oltre alla scarcerazione dei boss, ovviamente. Oltre alla scarcerazione, è arrivata una velina tra le mani in questo momento. Sì. Stasera tu sarai ospite di Mario Giordano? Eh sì, amico mio, sì, a difendere la libertà di espressione, a difendere la libertà di espressione, torna difendere tutto, certo, aborderò. No. In quel circo. E che cosa ti metti in testa? Il naso rosso del clown? Che ti metti? Come stasera ti vesti sarò oggi da Mario Giordano intorno alle 23:40? Qual è il tema? Non lo qual so ancora. Tema? A difendere, no, a difendere la libertà di espressione. La libertà di espressione contro di cosa attacchi di Bibbiano? Fascisti che stanno facendo a questa emissione televisiva. Dopo averli fatti ovviamente a questa emissione di radiofonica. Di cosa parlerai? Di non Bibbiano? Lo so, non mi interessa. Di Bibbiano parlate? Difenderò Bibbiano? La libertà di espressione. Quali rispetto alla vergogna tra che è le successo mani? Chi ci sarà con voi? Giorgia Meloni? Matteo so, Salvini? Maurizio Belpietro? Capezzone? Meluzzi? Tutto questo chi parleremo c'è con i nostri ospiti. Avremo Matteo Salvini, avremo Vittorio Feltri, il professor Galli, Giuseppe Cruciani. Però posso dirti una cosa, amico mio. Bisogna difendere la libertà un di espressione. Bisogna difendere continuo Mario Giordano ma fino nessuno al midollo. Bisogna, ma come difende? No, querelato. Ma si difende da solo. Bisogna difendere, non solo querelato, no, i giornalisti. Bisogna difendere uno che è un baluardo della ma libertà di espressione. Perché? Racconta perché è stato segnalato. Ma è racconta stato segnalato perché Feltri racconta ha detto perché Feltri ha detto che i meridionali sono inferiori. Esatto. Dai, e lui zitto, non ha contrastato attaccate in alcun modo. Dai, su. Marco da Palermo, dai, anzi Roberto d'Ancona c'è da via, poi Marco, No, ma che cazzo fai? Mi prendi in linea e poi mi fai aspettare mezz'ora. Fa stronzo. Roberto, stai calmo innanzitutto. Stai no, calmo. Roberto, un cazzo. La gente Roberto, che si regge. Ma lo aspetto tu. Senti, io tipo, stai tranquillo, che... stai tranquillo. No, che stai tranquillo, ma hai passato la telefonata e poi ti metti a discorrere con l'interdetto dell'amico tuo. E beh, allora che qual è il problema? Si permette ma questo? Che sei pazzesco? Non puoi, prendere per culo la gente. Ma chi sta prendendo per il culo? Chi sta pigliando per il culo? A sto cazzo. Ma questo è impazzito. A te il lockdown ti ha dato la testa, ti ha dato. Che no, fai? No, tu no, tu hai detto Roberto da Macerata e poi mi si fa a parte che ma io 10 minuti. No, tu devi forse tu non devi hai capito chi non hai capito chi comanda, non hai capito chi comanda in questa trasmissione. Vabbè, comando io, hai capito o no chi comanda? Perde. Comandi sto cazzo. No, comando io, è chiaro, se non ti va abbassi il telefono, chiudi il telefono e non ci rompi i coglioni. E allora impari l'educazione, impari. Ma vai a cagare, dimmi Roberto. Senti, ascolta, io ti voglio dire una cosa. Quell'interdetto che c'hai vicino, che è semi analfabeta, che dice sempre buonasera, le stesse cose. Buonasera, benvenuto, buonasera. Oh, allora, Robè, che sei sparito? Sei sparito? Oh, pronto? Buonasera, grazie per aver chiamato. Richiamato sto coglione, dai, richiamato sto coglione. Chi era quel cretino di poc'anzi? Mi chiamate, me lo va. Marco da Palermo, vai Marco. Intanto da Villa Maraini, Roma, che è una comunità. Buonasera. Di... Sì, si aspetta, Marco, che è una comunità di recupero per tossicodipendenti. E dicono che i tossicodipendenti sembrano immuni. Immuni, ti giuro. Ma... Cioè, demone, dove sei, demone? Buonasera. Oh, e non rompere il cazzo. Per ora è solo un'ipotesi, anche se basata su un'ampia casistica condotta dall'osservazione sul campo condotta nella capitale. I tossicodipendenti non sembrano essere sensibili alla Covid, forse perché il loro organismo è già molto stressato dall'assunzione di droghe e non ti giuro, e non innesca le reazioni infiammatorie con le quali si manifesta il contagio da coronavirus. Ad avanzarla sono gli esperti del Centro contro le tossicodipendenze di Villa Maraini a Roma, uno dei maggiori presidi per il recupero e l'assistenza ai tossicomani, che con la Croce Rossa eccetera. Titolo questo: i tossicodipendenti sembrano immuni. Ragazzi, io non ci credo a sta cazzata. Buonasera. Aridaglia, questo è Marco da Palermo, avanti. Forza, Marco, dimmi. Allora, vorrei dire al signor Parenzo sì. Che la cura con plasma è stata citata anche dal sottosegretario Sileri, la quale la considerava la cura più credibile. Ma per non cui c'è complotto, non c'è complotto, non c'è nessun complotto, anche Pavia, anche l'ospedale di Pavia, ma non lui come lei Mantova, sa, ma è anche Pavia, anche l'università di Pavia, ma non c'è complotto, io critico il fatto che prendere si parli di un dottore, complotto. Prendo no, io giro prendo in giro quei in coglioni. Hai no, preso in giro. Io prendo in giro. No. Quel professore. Io prendo ti devi in giro. Ti devi. Prendo in giro. Chi prendo in giro? Mi incazzo più che prendo in giro. Chi prova a sostenere il fatto che c'è un complotto e che alcune cose non vengono attuate per via di un complotto internazionale. Questa è una cazzata assoluta perché la scienza procede per protocolli e per sperimentazione. E come mai viene sbeffeggiato questo qua? Come mai viene sbeffeggiato da quelli presunti più bravi? Come mai ti nessuno... ricordo il caso di Bella. Avete fatto, andate a vedere cosa hanno combinato questi signori, io all'epoca non facevo il giornalista perché ho fatto l'esame 20 anni fa, all'epoca non ero come dire, in prima linea nel racconto giornalistico, andate a vedere che cosa fece Cruciani e compagnia su quella vicenda. No, io non c'entro nulla. Non lo so, io intanto l'ho detto, andate Roberto a verificare, d'Ancona, andate a vedere. Allora, il caso di Bella. Eccomi qua. Allora, che volevi? Non ho capito che volevi. Volevo dire semplicemente una cosa. Ma non si sente un cazzo intanto. Da dove sei? Da una caverna? Da una caverna? Mi senti? Dimmi. Mi senti adesso? Sì, vai. Oh, ti volevo semplicemente dire una cosa. Quell'interdetto che c'hai a fianco, non so, ha detto poco fa. Buonasera, grazie per essere intervenuto. Che cazzo di giornalista fa che non ha preso neanche la laurea? Ma che c'entra? Io ho fatto un esame di Stato, brutto coglione. Io ho fatto un esame di Stato per fare il giornalista, brutto imbecille. Ascoltami, io non voglio parlare con te, imbecille. Brutto ignorante. Io ho fatto un esame di Stato per fare il giornalista professionista, come tanti altri, capra che non sei altro. scritto quattro libri, ignorantone. Ignorantone. Imbecille che non sei altro. Anche ripeti sempre le stesse cose. Ma sì, beh, finisce tutto così, però è così. Vai a vedere. Ho fatto un esame di Stato per fare il giornalista. Brutto cretino. Zitto, Roberto, che volevi? Ma poi mi fanno impazzire quelli che dicono voglio parlare con Cruciani. Questi mi piacciono. Ma cosa vuoi? Ho scritto quattro libri, ho scritto cretino. Ma cosa vuol dire? Anche avere scritto quattro libri non c'è cazzo. Però Roberto, cosa ha fatto? Cosa ha prodotto questo qui? Cogine. Cosa ha prodotto questo qua? Semi analfabeta che dice sempre. Ma questo muso qua, cosa ha prodotto questo qua nella sua vita? Cosa ha prodotto? Hai prodotto soltanto corna, quelle che ti ha messo tua moglie. L'unica cosa che hai prodotto nella tua triste vita sono le corna che ti ha messo in testa tua moglie. Io ho fatto un esame di Stato per fare il giornalista. Tu ti sei fatto mettere le corna nella... in testa. Calma Roberto, cosa fai nella vita? Non ho capito. Allora, si è fatto mettere le corna. Vedi, sono, non fa niente. Sono pensionato, le corna le porta lui che è un buco. Te le sei fatto mettere le corna in testa. Ma l'unica cosa degna di essere ricordata. L'unica cosa degna di essere ricordata, le corna sulla testa che ti hanno messo a te. Hai fatto un esame di Stato per fare il giornalista, tu o no? Io ho fatto un esame di Stato per fare il giornalista, brutto cornuto, cornuto che non sei altro. A me mi fanno impazzire quelli che dicono posso parlare con Cruciani. Dimmi, io li amo. Ci voglio dire, io con questo imbecille non ci voglio parlare. Ho capito, dico voglio sapere solo una cosa: un individuo del genere viene pagato oppure paga lui per viene pagato sì, ma perché pago io, perché sì, pazzo, chi lo considera questo uomo, ma non è pazzo, che per caso lo pagate. Ah, certo, lo paghiamo. Sì, certo, lo paghiamo. Ma che dici? Ma buttate via i soldi così, ma questo c'ha bisogno lui di pagare lavori, se no va in depressione e si ammazza. Però è uomo del genere, chi lo considera? Però è simpatico. Ciao, è simpatico ed è... Sì. Ma tu, lui, Cruciani, ascolta, Cruciani, dimmi. Se l'avrà fatta mai una scopata sopra la lavatrice in centrifuga? Ma non so, perché proprio sopra, perché sopra la lavatrice? Perché fa tutto la lavatrice, se sta anche di meno. La metti in centrifuga, lui non sa manco che cos'è. Quella la fa, questa cosa qua l'ha fatta la tua moglie mentre tu telefonavi alla radio, hai capito o no? Hai capito o no? Questa roba della centrifuga la tua moglie la faceva, cornuto che non sei altro. L'unica cosa che si ricorderanno di te, il cornuto che chiamava alla zanzara. Posso parlare con Cruciani? Posso parlare con te? Siete incredibili. A me fanno impazzire quelli che si rifiutano di parlare con me. Cioè, allora, mi ragazzi, la realtà quasi è questa: c'è un signore all'ospedale, un primario, un pneumologo all'ospedale di Mantova, che dice di avere trovato una via giusta. Lo chiamano da tutto il mondo una via giusta contro il coronavirus. Una cura anche molto, molto economica rispetto ai investimenti. Perché lo ignorano, Parenzo? Perché tu lo ignori? Tu lo stai ignorando. Non è che lo ignoro. Tu lo ignori. Magari sarà un grande scienziato, ma vanno seguiti i protocolli internazionali previsti. Preferisci i vaccini. Vabbè, questo no, non a prescindere. Red Ronnie con noi, eccoci. Ehi, ciao. Caro Red, allora qual è il punto? È incredibile. Qual per parlare di una roba di medici si chiama Red Ronnie. Ma certo. È perché non può parlare? Vuoi tappare la bocca pure a Red Ronnie? Ma io non mi metterei a parlare. Ma io non mi metterei a parlare con un medico. Ma qui non è medica, di è politica, è società, è vita. Non è la medicina vera e propria. Le cose le sappiamo, ci sono. Le puoi leggere sull'internet, dai. Red, riviste scientifiche hanno preso il posto di Parenzo. Io mi occupo di comunicazione. Sì. Sì, posso non di vaccini, appunto. Posso parlare di comunicazione? Sì. Okay. Certo, ci mancherebbe altro. Allora, nel momento stesso in cui io sento che uno che si chiama Tarro ed è molto famoso e ha fatto delle cose incredibili perché ha un curriculum, leggo, di cose fatte, e questo parla contro i vaccini, improvvisamente diventa un vecchio ricoglionito che deve andare a fare Miss Italia. Luc Montagnier, che ha vinto un Nobel perché ha fatto qualcosa, nel senso che ha scoperto il virus dell'HIV, siccome parla contro il coronavirus e dice che allora viene considerato un vecchio rincoglionino, ma sì, ma la vecchiaia. Io mi occupo di comunicazione, guardo la comunicazione, sì, è così. guardo la comunicazione. Mi è arrivata una comunicazione dalla Nazionale Cantanti, fra l'altro, che sta appoggiando questo medico di Mantova, il quale, questo De Poma, ha, leggo, io non sono un esperto, io mi occupo di comunicazione, leggo che ha inventato questo sistema, ha provato questo sistema, che avevano provato altri, dove mettendo chiaramente del sangue di un infetto che è guarito, del plasma, non è sangue, plasma, lui guarisce. Praticamente è lo stesso procedimento, da quello che io posso intuire, non avendo studiato medicina, ma avendo frequentato molti medici e molti esperti, che è quello che fa il vaccino. Cioè, il vaccino che cos'è? Il vaccino è inoculare il virus, un virus debole, dentro a un corpo, di modo che il corpo, questo, si rafforza, il corpo rafforza le difese immunitarie contro quel virus. Ecco, perché, scusami Red, perché Burioni lo sbeffeggia un po'? Perché Burioni, che è uno di quelli più ascoltati in televisione, ma Fabio fa... Ma no, la persona che tu hai nominato, che cosa ha fatto? Ha un curriculum che ha inventato qualcosa? Gli hanno dato un premio? Dalle cose che girano su internet pare che sia stato bozzato in tutti gli esami che ha fatto. Addirittura? Se vuoi ti mando le cose che arrivano. Tu stai dicendo che sostanzialmente Burioni è un incompetente, questo stai dicendo? Non sto dicendo questo, io dico che dagli risultati sono questi. Allora, io sostengo che quando si parla di vita di persone, invece di sbeffeggiare quello che fanno gli altri, ma nessuno sbeffeggia. Sì, tu vanno validate. La scienza ha bisogno di essere validata. Ma qui la lui gente magari muore, è un grande qui professore, la gente ma se siamo ti dice d'accordo, che sono guarite, ma ognuno non può sperimentare quel che trova. Scusami, un grande scienziato come quello che tu hai citato, che magari sarà un bravissimo medico, non può sperimentare a cazzo suo una cosa. Ma che a cazzo suo? Qual è a cazzo suo? La scienza sperimenta perché pagano della gente per farsi inoculare. Ma in base a dei protocolli riconosciuti, a delle esperienze ripetute, a dei casi statistici. Questo è l'equivoco, altrimenti. Vorrei ricordare sempre che quando si ammalarono Geminiani e Fausto Coppi, i medici francesi scoprirono che era la malaria, salvarono Geminiani, chiamarono i medici italiani per dire: guardate che la malaria, i medici italiani mandarono a fanculo dicendo: ci pensiamo noi, dopo due giorni è morto. Cioè, perché tu, scusami Red, diciamo, andiamo alla sostanza. Tu quello che pensi è questo: che c'è un gruppo potente di persone che preferisce aspettare il vaccino perché naturalmente ci sono investimenti, soldi, eccetera, piuttosto che cercare una cura meno costosa. Ma la scienza va avanti, non è vero. Io dico che nel mondo della comunicazione ci sono due cose che vincono, e sono l'ego e il denaro, e vincono anche sul salvare le persone. Perché se arriva qualcuno che salva la gente, vedi, naturalmente... Perché scusami, voi... quello di Di Bella non era l'ego? No, ma rispondetemi, ma quello del metodo Di Bella non era l'ego? Non era l'ego? Io ti posso assicurare... E a N che all'epoca scavalcò la storia di Di Bella. Io ti posso assicurare che c'era una bambina che si chiamava Sofia, che andava da questi qui, di questi santoni, ma i genitori mi hanno detto che lei stava bene quando andava lì. Ti posso assicurare che una persona famosa è andata da uno che gli cura la sclerosi multipla in maniera alternativa e sta bene. Però, ma tu per esempio tu sono singoli casi che non fanno statistica, scusami, però singoli casi che dipendono da mille fattori. Scusami, tu la una chemioterapia, non la, adesso, toccandoci a pelle tutte, non la faresti mai una chemioterapia? No. Mai? Tu non faresti mai una chemioterapia? No. Cioè tu ti rifiuteresti di farla? Ti dovesse succedere una cosa del genere? Il vaccino ci anti-Covid qualora ci fosse? Detto, l'ha detto già che non lo farebbe mai. Non lo farebbe, cioè. E che fa? Ma c'è gente in Italia che vuole fare il vaccino Ma scusa Giuseppe, ma ti rendi conto che nessuno parla di prevenzione? Tutti danno per scontato. Ma cosa vuol dire? Ma digli qualcosa. Panzironi, sì, panzironi. La prevenzione appunto vuol dire una sana alimentazione. Vabbè, questo. Ma questo tutti lo vale per tutti. Ma vale per qualunque cosa questo, scusa, che c'entra? Vale per qualunque cosa. Sì, ma perché nessuno dice di non mangiare salami, di non mangiare tu dici che alla fine può servire per combattere il coronavirus mangiare meglio piuttosto del vaccino, cioè meno carne si evita il vaccino. Io mi ammalo dal 1990. Sì, non d'accordo. D'accordo. Dunque, io sto dicendo una cosa. Secondo te, se la gente mangiasse meno carne, si uscirebbe molto più velocemente da questa cosa del coronavirus. Ma guarda, lo stanno dicendo tutti, persino David Hamilton, pilota di Formula 1. Hamilton è uno che ha deciso di fare un tipo di dieta. Anche Brian May adesso è diventato come Paul McCartney. Sì, sì, d'accordo, vabbè, quello in vecchiaia, sai. Ci sono tanti ragazzi che stanno diventando vegetariani e rifiutano la carne. Sì, ma quello è un altro discorso. Il mondo sta cambiando. Mi dispiace per te, Giuseppe, che ami la carne, ma il mondo sta cambiando. Ma tante ragazze non fanno manco quello che bisogna, cioè quello che piace agli uomini, che c'entra. Poi pure sta cosa del sesso dei vegani, io non l'ho mai capita sta cosa qua. Cioè, veramente una cosa incredibile. Ancora si insiste con questa cazzata, molti lo dicono, atleti, eccetera, che l'alimentazione vegana fa scopare meglio, ma è una follia assoluta. Ma allora, dai, Giuseppe, su, ragazzi, Giuseppe, non diciamo cazzate. Giuseppe, io ero carnivoro e sono diventato vegetariano, e ti posso dire che è vero. Il giorno in cui tu da carnivoro diventerai vegetariano mi dirai che è vero. Ma che cosa cambia? L'eiaculazione? Cosa cambia? La potenza sessuale? Che cosa? La durata? Cambia la sensibilità. Guarda che tu stai parlando di scopare, non di far l'amore. Ma sì, ho capito. Scopare è cavalcare in maniera animale. L'amore è un'altra cosa. Sensibilità, è dolcezza, è capire, è diverso. Non ho capito, perché uno che mangia la carne capisce di meno, secondo te, è meno sensibile, è meno... Non ha la sensibilità. Ma ascolta, ma perché tu... Cioè, è più animalesco. Allora facciamo un esperimento. Se tu vuoi capire cos'è il mondo vegetariano, ti fai 3 mesi da vegetariano, poi dopo parliamo. Ma guarda che sono tentato. Cioè adesso mi faccio consigliare da qualcuno di fare 3 mesi da vegetariano. Voglio capire se mi funziona meglio l'uccello o peggio. Ti giuro, voglio fare un'esperienza. Ma è molto triste che tutto sia funzionato. Vabbè, adesso sto pensando. Su questo ha ragione Red Ronnie. Su questo perfettamente ragione Red Ronnie. È una parte del tutto, d'accordo. È triste cioè, che secondo tu faccia te la divento più buono. Divento più buono anche alla radio. Divento più buono, secondo te? Sì, secondo me diventi più buono. Ma dai, su. Cambi tutto, cambia tutto. Ma secondo te, Bill Gates, che secondo alcuni è quello che sta dietro sta storia dei vaccini, è uno che mangia carne o no? Secondo me sì. Secondo te mangia carne? Bill Gates mangia carne? Dunque, però che c'entra sta storia di Bill Gates che sta dietro i vaccini? Cioè, secondo te c'è tutta una, non dico un complotto, una trama, lo finanzia, è una trama fortuna, che riporta a Bill Gates, cioè ci stanno imponendo una soluzione alla fine, che alla fine è guidata da un... Scusa, io anche qui non parlo per me, sempre per comunicazione. Vabbè, sì. Allora io non ci utilizziamo questo espediente. Io non ci sto capendo più niente, perché vedo gli esperti virologi che litigano fra di loro, si sconfessano. Questo è vero. Ecco. Poi dopo che vedo quelli che dicono ci vuole assolutamente il vaccino, gli altri che dicono attenzione che il vaccino non serve perché il Covid si chiama 19, è mutato 19 volte, vero. Adesso è già mutato 33 volte. Vero. Quindi se tu fai un vaccino su un Covid come per l'influenza di anni fa. Poi dopo gli altri esperti dicono chi si è vaccinato con l'influenza al 36% di percentuali in più di prendere il Covid. Alcuni lo dicono, altri lo smentiscono. Vabbè, insomma, dove vuoi arrivare? Voglio arrivare a questo, che c'è un grande casino e quindi tutto vale tutto ormai, perché nella comunicazione ormai tutto vale tutto. E dunque? Allora tutto vale tutto, perché uno può credere. Infatti bisogna selezionare fonti autorevoli. Tu credi che Bill Gates abbia un interesse al fatto che resti questa situazione con coronavirus? O che l'abbia provocata addirittura? Ma sai, se non sbaglio... No, non è questo. Io non arrivo a dire questo, anche se c'è chi lo dice, sempre nella comunicazione. Io arrivo a dire semplicemente che, come ti ho detto prima, ego e denaro vincono sulla vita delle persone. Lo dimostrano le guerre, lo dimostra tutto quello che c'è. Vabbè, il messaggio è chiaro. Se tu guardi i numeri, l'AIDS, di cui nessuno si preoccupa più, ha, credo, 20-30 volte i morti del Covid-19. Cioè, secondo te alla fine ci stanno un po' prendendo per il culo sulla mortalità. Alla fine la mortalità sarà molto molto bassa. Di tutto quello che hai detto, toglierei solo la parola un po'. Ah, proprio totalmente. Sì. Ciao Red, ciao. La zanzara. Devo vedere un po', devo cercare di avvisare qualcuno, dire per cortesia chiudete le assi merdose, togliere un po' di merda dall'Italia, chiudono sta trasmissione del cazzo, tu e quell'altro frocioli, quel nano del cazzo. Questi di che fanno la musica rap, trap, trup, trap, una razza aperta. Che cazzo ti fanno rumare di cocci? Prima era musica, era melodia. Musica rap, trap, trup, trap, trap. 2020, anno bisesto, anno smesso. Giro in ma, gira a caso, gira cose, Rubens Sosa. Bruciamo fiori, non rose cose. Mamma stai tranqui, è una mamma sola. Perda fre, nuova a me, sogni me. E che cos'è? Nell'età, fazzole. Mai pia, fai una se, blow job, nuova squadra, mai una gio, mai una gio. State ascoltando musica giovane. La zanzara. Mi scappè, basta il shine, fai una se, taglia le, giro pia, basta il fragiro in mano. Cinque col fra che già giro pia, tipo quel tipo di tipo fra, tipo col tipo di tipo fra, tipo ario contra fra, tipo quel tipo che è il tipo di tipo, la tipa del tipo fra. Prima la musica era melodia, passione. Stanno curando i malati di virus con il plasma donato da altri malati che sono guariti. Una cura che funziona. Io ringrazio ad esempio il professor De Donno dell'ospedale primario, dell'ospedale di Mantova, perché a livello di governo non se ne parla. Il professor De Donno ha denunciato in un'intervista: il governo non ci chiede nulla, l'Istituto Superiore della Sanità se ne disinteressa. Molti cittadini a questo punto potrebbero avere il dubbio che, siccome il plasma è gratis, siccome non c'è dietro un business di qualche industria farmaceutica, siccome non ci sono appalti o guadagni milionari, ebbene è meglio occuparsi di altro. Follia. Sai cos'è? No, sai cos'è la cosa incredibile? Questo lo dico seriamente. Questo lo dico seriamente. La cosa incredibile non è il professor De Donno. No, no, adesso questo, qui sono serio. La cosa non è il professor De Donno, che è uno stimato professionista e fa il suo lavoro. La cosa incredibile è questo sciacallo qua, Salvini, questo sciacallo che strumentalizza l'intervista di De Donno per trasformare lui il grande complotto. Lo sciacallo vero è questo politico che vuole instillare il dubbio del grande complotto. Lui è il grande complotto del plasma. No, la ma cura capisci, già dovresti c'è. Convenire la con me. La cura già dovresti, c'è. È grave che un politico usare. È grave, tu dovresti essere d'accordo con me, dovresti dirlo da Mario Giordano, ma se tu lo dicessi ti impallinerebbero e non lo dirai. Madonna, che il grande complotto è quello del politico Salvini. Comunque, stasera, non il ragazzi, professor De Donno. Stasera ragazzi, 23:45, 23:50, sarò lì. Sarò lì da Mario Giordano a difendere la libertà di espressione dopo gli attacchi indegni che sono stati rivolti a quella. Come quello no? Parla come tutte no? Le nessuno, tutti i martedì c'è, no, nessuno gli dice niente. Lo hanno ogni attaccato. Martedì alza il tendone del circo, arreda il suo studio come fosse un palcoscenico di un teatro. E chi viene attaccato per la libertà di espressione, chi vuole, di chi dice ah è indegno, non bisogna intervistare quell'ospite, quello non deve fare quello, quello non deve fare quell'altro, avrà sempre la mia solidarietà. Te lo dico e lo sai. Sono andato anche a Verona un anno fa, poco più di un anno fa, a difendere gli ultracattolici che erano in quel momento attaccati. No, sì, i neonazisti, sì, il diritto di dire anche delle follie. Ma chi è neonazista? Stai chiamando neonazista chi? Fontana di quello di Verona? Dai, non dire cazzate. No, qualcuno che era su quel palco era un neonazista, no? Non che, italiano, non su quel palco cazzate, di Verona. Dai. C'erano dei neonazisti cattolico tradizionalisti. Ma chi se ne frega? Chi c'era? C'era, chi non c'era? C'era la Saurino. Voglio dire, donne, come vi dovete mettere quando vi leccano il pucchiacame? È importantissimo, perché ci sta un errore anche da parte vostra. Come? Allora, siamo finiti su questo. No, perché queste cose basta, non devono succedere più, ok? Perché questa quarantena serve per farvi acquisire nuove skills. Nuove skills, cioè lei sta facendo un tutorial su come la donna si deve mettere per farsela leccare. Questo è il punto della Saulino, la nuova frontiera sauliniana. Come siamo finiti a ma questa te lo faccio ascoltare più avanti, perché c'è Elena da Bruxelles. No, Elena da Bruxelles. Ti faccio sentire più avanti dei dettagli su questa nuova epopea sauliniana. E sto parlando di Paolo Saulino, naturalmente. Allora, Elena da Bruxelles, avanti tutta. Pronto? Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Ciao, ciao, ciao Elena, dimmi. Buonasera cara. Allora, io ieri mi sono depilata tutta, cioè praticamente mi sono rimasti solo i capelli e le sopracciglia. Cioè ieri ti sei, scusami, ieri ti sei depilata tutta, immagino la figa, cioè le parti intime. Anche, sì sì sì, no, tutta, gambe. Gambe, intime, gambe normale, ma soprattutto tutto. La cosa che ci interessa, ti dico, sei ma... depilata tutta la figa, cioè, ma io dico, una esatto. Chiama da Bruxelles, ma... mi aspettavo un commento della Ursula von der Leyen sulla vicenda della sentenza della Corte Costituzionale tedesca. Sentire. Mi ero illuso che della telefonata da Bruxelles ci raccontasse dello Stato dell'Unione e invece abbiamo una graziosa signorina che ci racconta di come si è depilata. Vedere, insomma, ma è importante, no? Perché io lavoro tutto il giorno, poi esco per, non vedo nessuno, non parlo con nessuno, esco per andare a fare jogging, bella depilata, e sento Cruciani che dice che non bisogna depilarsi. No, attenzione. E quindi ieri sono andata in panico, perché dico, caspita, cioè io mi sento strafiga e invece qua devo fare qualcosa, però, mi è venuto in mente che io sono mezza sarda, quindi in due settimane sono già come voi tu, Cruciani. Cioè, non ho capito. Facciamo un attimo un recap della situazione. Dunque, tu eri in una situazione. No, facciamo un riassunto. No. Andiamo nel dettaglio. No. No. Non mi dire di no, che tanto lo faccio. No. Perché se tu mi dici di no, io lo faccio comunque. Tu non mi devi dire sì. Se dici di sì, mi smonti, mi smosci, me lo fai, sì, me lo dai, fai vabbè, ammosciare. Proviamo, capito? Dai, vabbè, cioè, devi utilizzare dai, questa cosa. Cioè, vabbè, inutile che dici no. Dai, sì, dai, in se fondo mi dici può sì, sentiamo. Io mi sa sì, in fondo può essere interessante. Dai, sentiamo cosa deve dire questa simpatica signora. Sentiamo. Questa. Elena, fino a dove era cresciuto il tuo pelo? Questo è interessante. No, ma allora perché ritorni, scusa? Dovresti fare il contrario. No, fino a dove era cresciuto il tuo pelo? Ma non tanto, perché devo dire una cosa. Io ogni due settimane, di solito ogni due sabati lo faccio, però stavolta ho aspettato lunedì perché non avevo voglia. E già due giorni in più era già una situazione tragica. Allora ho detto, prima di ma andare tragica a fare che vuol dire tragica? Spiegami, che vuol dire secondo te tragica? Per me... Vado a fare jogging con i pantaloncini corti, che magari mi piego un attimo, mi muovo e non vorrei che spuntasse fuori qualcosa. Ma guarda che quando spunta fuori qualcosa è una specie di dono divino, è una specie di regalo che viene dall'alto. Cioè se vedere quel pizzico di, magari quel peletto che spunta dal pantaloncino quando uno magari si piega, è un regalo che raramente si può vedere, dunque che tu aspetti quasi con trepidazione, siccome si vede raramente. Comunque andiamo avanti, tu non ti volevi vedere fatta in quel modo. E dunque che cosa esatto. Hai fatto? E niente, allora ho preso, ti spiego, prendo il rasoio, faccio col rasoio perché... Beh, fai tu col rasoio, fai tu col rasoio, eccetera. Però prima facevo con la ceretta e quindi mi durava un po' di più. Sì. E adesso invece sto facendo la luce pulsata, quindi devo fare col rasoio e così dopo due giorni... Non ho capito, ma tu vuoi, nella tua testa ti vorresti fare praticamente per sempre, vorresti farti una epilazione... Sì, vorrei farlo per sempre. Ma perché? Perché? Ma sì, ma perché è brutto, è fastidioso, mi guarda allo specchio e non mi piaccio. Cioè, ma chi? Ma non ho capito, gli uomini con cui sei stata fino adesso, che cosa dicevano? Ah, allora, questo è un argomento interessante, perché gli uomini non sono mai chiari su questo argomento. Perché quando io lo chiedo così, a volte anche a uomini di cui non mi interessa, lo chiedo così per sapere, e mi dicono, ma vabbè, dipende, basta che non sia un cespuglio. Poi ti dicono tutti, ma magari un disegnino. Ma cosa sono, Picasso, che mi metterò a disegnare? Ah, cioè loro pretendono, alcuni addirittura pretendono che tu faccia un disegnino sulla figa, praticamente, che trasformi... No, che trasformi tutto o niente, cioè disegnino non capisco. No, ma questo io ti potrei anche dare ragione. Cioè, nel senso, quelli che pretendono, no, vorrei un piccolo disegnino, vorrei una striscina così, ma che roba è? Uno deve stare lì a fare la striscina. No, su questo ti do pienamente ragione. Però torniamo ancora a una frase precedente che hai detto. Cioè, a te ti ricrescono in maniera molto veloce, mi sembra di capire, no? Mamma mia. Uso il rasoio, sì. Cioè, no, ti ricrescono tutti, anche la barba, chiunque. Esatto, ti ricrescono veloce. Ma se me l'avessi chiesto a me, dice Parenzo, tu ogni quando ti fai la barba, alle volte devo farla anche due volte al giorno, perché me lo chiedevi a me, facevamo più bella figura anziché chiedere alla signora che ha Bruxelles, chiamato, e alla dire. Quale però... vorrei chiedere se lei lavora alla Commissione Europea per caso. No, non lavora alla Commissione Europea, sicuramente. Poi anche una che lavora alla Commissione Europea non può fare questo tipo no, di discorso. No, voglio chiedere, chiedo, dove lavora lei? Sì. Un ma no, ma quello rispetto, è magnifico, eh? È viva, ma voglio che non, non ho dubbi, sento dalla voce, dall'eloquio, ma lavora capito. A Bruxelles dove ma lei, che cara? Ti interessa a te dove lavora? Chi se ne frega posso dove fare lavora? Una domanda ma no, normale, ma non vuole una essere riconosciuta, ha parlato posso. Di figa. Ma che problema c'è? Dove lavora, signora mia? Dove lavora? Non lavoro in commissione, ma i miei amici che lavorano in commissione parlano solo di figa. politica, tutti. Ma ragazzi, ma è normale, ma solo tu, ma solo tu, Paparenzo, pensi che parlino di grandi sistemi, parlano di figa. Io ho un sospetto. Io penso che lei, signorina, lavori al gruppo che fa riferimento a Madame Le Pen, no, e a tutti, no, i sovranisti, no, assolutamente, europei. Assolutamente no. Elena, scusami un attimo, volevo capire l'altro passaggio che hai fatto. Cioè, l'altro passaggio è un altro. Cioè, tu hai detto, io posso aspettare questi 15 giorni. Che vuol dire? Cioè, non ho capito bene qual è il riferimento. Allora, io faccio ogni 15 giorni perché è la regola per la luce pulsata. Però a me già dopo una settimana non piace più. A chi non piace più? A te stessa? A me stessa. Ma perché poi quello che a me non piace sono quelli esterni sulle cose. Non ci incontreremo mai, Elena. Ho pensato, per te, Cruciani, tanto mi bastano 2 settimane. Se lo so, 2 settimane prima del nostro incontro non faccio niente. Mi presento così. Tu stai dicendo che sei disponibile ad un incontro e siccome sai che io ho questa passione, diciamo, per un minimo di pelo, potresti aspettare, questo è il punto. Riassumo io la situazione. Stiamo utilizzando una frequenza che è concessa dallo Stato a un privato per trasmettere emissioni radiofoniche che tutto questo è vero. Da lunedì alla domenica per più e più ore danno informazione puntuale su economia, mercati, situazione del paese, sì. E noi assistiamo al fatto che questo bene, che è concesso allo Stato perché lo Stato lo concede a un privato, viene usato da lunedì al venerdì dalle 18:30 alle 21 per far rimorchiare un anziano conduttore radiofonico dei capelli sporchi che stasera pagato andrà da Mario Giordano con una signorina di Bruxelles che si depila solo se Cruciani vuole. Questo è quello al quale stiamo assistendo in questi pochi minuti. Questo è il quadro che io vorrei alla nostra dirigenza di Confiducia fosse chiaro. Questo, e lo dico a costo di perdere anch'io il lavoro, non può più andare avanti una trasmissione simile. Ma non lo ha fatto, nessuno interessa. Ha ragione Elena, posso prendere nota, però io prendo nota. Allora, Elena da Bruxelles sarebbe disponibile, poi a Bruxelles, qui a Milano, eccetera. Noi andremo a Bruxelles presto, torneremo a fare le dirette del Parlamento Europeo, magari un domani. Torneremo dove? L'abbiamo fatta in passato, le dirette del Parlamento Europeo, o no? Non mi depilo, se tu vuoi, non mi depilo, questa è la sentenza finale, giusto? Io questo è quello che volevo. Ora, senza offesa, Cruciani, io questo lo direi anche a un uomo con cui esco. Ipotetico. Se lui mi dice mi piace così, io lo farei. Così mi smonti tutto, però, amica mia. Hai detto questa cosa, ma hai smontato tutto. Ma hai fatto mosciare tutto. No, ma sto scherzando. Ieri pensavo a te. Ma figuriamoci, adesso te lo stai inventando. Avrò anche altri partner oltre a te, no? Cioè, te lo stai inventando adesso questa cosa qua. Comunque, la cosa fondamentale è questa: se devo fare una cosa con te, posso aspettare la depilazione, giusto? Questo possiamo certificare, esatto, questa cosa, esatto, qua. Sì, guarda, se vuoi te lo scrivo. Altra cosa. Beh, mi sembra più di dirlo, che cosa vogliamo fare? Vogliamo certificare con un biglietto? Cioè, nel senso, la crescita, come avviene la tua crescita? Cioè, che tipo di pelo è? Questo, giusto per concludere il quadro, poi passiamo ad altro. Guarda, mi piace adesso per il pubblico maschile che sente questa descrizione, perché so come sono gli uomini di oggi. È che sembra tipo barba, nel senso, cresce così. È ispida. Sì. Da quando faccio le luce pulsata, no, un po' meno. Un po' meno ispida. Però molto folta, diciamo, molto folta, nera. Ma normale, penso nella media. Vabbè, Elena, ti abbraccio, ciao, a presto. Ciao. Un bacione. Ciao. La Zanzara. Pronto? Allora, vuoi provare tantissimo il sesso anale, ma hai tanta paura? Sì, mi dica. La terminazione nervosa che è presente dentro l'ano è evidente che procura un piacere talvolta superiore, secondo alcuni. Per cui, ragazzi, ma dobbiamo fare le prossime puntate sulla differenza tra la penetrazione anale e quella vaginale? Dimmelo subito, perché mi stai spronando, mi stai suggerendo. Tu mi dici di no, dimmi di sì, dimmi di sì che non lo faccio, dimmi di sì. No, grazie. Spero si capisca che odio il razzista che pensa al paese, ma è meglio il mojito. Eppure liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito. Si chiedono questo da dove uscì, dal terzo millennio col terzo dito. Parlare di eccesso non è eccessivo, sono il fuori programma televisivo. Non ho i superpoteri, ma tra tutti riconosco. Chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista. Non fare niente tutto il signor Parenzo. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. Via! Da questo canale! Fire up the flames. I'll do you damage. Noi, Alessandro I, al secolo Alessandro Meruzzi, primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala, antico orientale. Dopo due mesi si va a trombare con la donna Maremma Maiala, finalmente! Però nel tragitto in macchina per andare da lei, l'unica cosa a cui mi viene da pensare è tipo: Kierkegaard, non sai niente, devi studiare! Ma vaffanculo, vai, accidenti a questi jingle di merda, vaffanculo. Comunque, stamattina, primo giorno di libertà, appena uscito, svoltato l'angolo, subito una bella figa. E vai che si riparte. Ragazzi, la gente non ne può più, la gente non ne può più, non sa nemmeno cosa deve fare, perché se tu hai un fidanzato o una fidanzata in un'altra regione sei fottuto, questo è il punto essenziale. In alcune regioni è ancora complicato, anche se poi lo si fa, trasferirsi da comune a comune, anche se poi naturalmente si fa tranquillamente. Beh, siamo ripartiti. Sì, però non è possibile. Se io ho una fidanzata in Umbria, in Emilia-Romagna, in Piemonte, con le fidanzate c'è un'economia in ginocchio, amante, tu pensi ancora all'amante. Ma la gente, un paese in ginocchio e tu ancora pensi all'amante, alla fidanzata e alla fuitina. Dai, su. Valentina Nappi con noi. Buonasera, buonasera. Ciao. Come stai? Ciao. Innanzitutto, come stai? Bene, voi? Meno male, ce la caviamo, dai, amica mia, siamo qui. A Milano, io a Milano nel bunker, per adesso il Covid non è entrato in questa, beh sì, una specie di bunker, Milano si è trasformato in una specie di lazzaretto. Lei dove si trova, cara signorina? Sempre a casa mia. A casa sua. E devi sapere, dove? Cara Valentina, però. Beh sì, è dalle parti di Napoli. Devi sapere, sì, cara Valentina, che qui Milano era diventato signora un miraggio. Nappi. Era signora, diventato un miraggio per chiunque, vivere a Milano, stare a Milano, lavorare a Milano, eccetera. Invece ce la siamo presa nel culo. Questo è il punto. Cosa che per te è una cosa abituale e ti fai pagare. No, per ma non bisogna usare l'espressione prendersela nel culo come una cosa negativa. Prendersela nel culo dovrebbe essere una cosa bella e basta. Oh, vedi, ti sento in forma, ti sento in forma. Ti sento, quando dici queste cose mi fai emozionare e ti sento in forma. Cioè tu dici... Sai cosa dico io? Prenderlo nel culo senza lubrificante. Sì. Allora sì. Cioè allora che quello fa male. Quello fa, allora possiamo, beh, sì, quello, possiamo fa male, quello fa male. A te non fa più male prendono il culo senza lubrificante. No, ma che cazzo dici? Cioè, mi fa male. Ma non lo faccio senza lubrificante. Ah, cioè tu le gang senza lubrificante non le fai? No, ma non faccio nemmeno un dito senza lubrificante. Ah, tu il lubrificante. E che tipo di lubrificanti? Fammi parlare con Valentina, che ogni volta mi disturbi con questo tuo moralismo. Mamma mia, cioè, che tipo di lubrificanti? Non insultiamo la morale, esatto. Sì, cioè, con queste battibecchi, con queste piccole cose. Uso il lubrificante a base di silicone. A base di silicone, questo è molto jojoba. Olio di jojoba. Ah, olio di jojoba, cioè c'è un lubrificante particolare fatto apposta per il culo, cioè che serve molto, sì, per il sesso. Sì, c'è una foto del culo. Cioè, c'è proprio una foto del culo sopra. Cioè tu dici, io per esempio, ne usi poco e dura per tutto il rapporto. Cioè tu dici, nonostante la mia apertura anale, perché tu avrai una tua apertura anale superiore superiore al resto, no, delle donne, immagino, amica mia, perché se non ce l'hai tu. Non lo so, adesso che sono tutti a casa a fare content trade dei miei colleghi, sì, cioè girano da casa con i partner che hanno in casa. Sì. Sto guardando un sacco di video di Dredd, che è uno dei cazzi più grossi. Chi e è Dredd? Ragazze, devi cercarlo perché... Sì, com'è Dredd? Scritto Dredd così, Dredd. Dredd, D-R-E-D, oppure aspetta, una E e D mi sembra. Dredd comunque, Dredd. Sì, è un porno attore molto dotato, diciamo. Sì, io ci ho messo un'ora per farmi entrare questo pisello nel culo. Addirittura, un'ora da Dredd. Sì, perché non... cioè, sono dotata, ma c'è chi è più dotata di me. Sì, e poi soprattutto non tutti i sederi immagino si dilatino allo stesso modo, magari qualcuno appunto sì, come con i muscoli, se chi riesce a fare la spaccata chi no. No, ma questo è molto interessante perché ti fa capire è una tecnica, è il corpo umano, sì, è tecnica, è corpo umano, sì, queste cose non bisogna prenderle tecnica, sì. Ma c'è anche una predisposizione naturale, stessa cosa per la danza classica, lo sanno in molti, ho fatto 8 anni di danza classica in realtà. Cioè tu dici c'è la predisposizione naturale a prenderlo nel culo, tu dici questo. Sì. Per cui l'espressione però bisogna cambiare. La tecnica aiuta e ci vuole, altrimenti ci si fa male, così come in palestra. Come in tutte le cose del mondo, ragazzi, non bisogna pensare che prenderlo nel culo. No, però sì, tu tenderesti ad evitarla perché non ti piace prenderlo nel culo. D'accordo. Ma non l'ho mai provato. Non hai provato, non lo puoi dire. Non hai provato, non lo puoi dire. Questo ve lo posso certificare. Certificare. Sei verginello nel culo, parenzino. Ma non è una cosa strana, Cruciani. Non è una cosa strana. Ma che cazzo vuoi scopare il tuo culo pelato di merda? Cosa strana. Ma che anche le morroie alla tua età. Ma che cazzo ti va? Signora, non volevo entrare dentro questa discussione con lei. No, ma è vero. Volevo entrare con lei in questa sofisticata discussione. No, però è vero che se uno si va. È una discussione importante perché bisogna smettere di usare l'espressione prenderlo nel culo come se fosse una cosa brutta. Dobbiamo dire prendono il culo senza lubrificante. Cioè, un'altra cosa che dico è prendere un'unghia d'acrilico nel culo. Cioè? Una nostra sensazione orribile. Cioè un'unghia di un'unghia d'acrilico. Ormai vanno tantissimo di moda, si vedono un sacco in giro, ma anche le commesse hanno queste unghie di plastica. Quando ti capita però a te ti prendono il culo un'unghia di acrilico, scusa. Mi sono capito, ci sono andata vicina perché molte mie colleghe indossano questo tipo di unghie. Addirittura? Sì. Cioè molte tue colleghe quando fate del sesso diciamo lesbo, diciamo così, delle cose così, ti trovi in difficoltà con queste unghie? No, ormai io lo dico, no, ti prego, niente penetrazione con le dita perché mi fai male. E vabbè, succede, Davide, che vuoi fare? Cioè, tu però, quello che dice Valentina è che non bisogna essere orgogliosi, perché uno dice, come quando tu dici, io non lo faccio, orgogliosi di non averlo preso nel culo. Ma mi dispiace, vi chiedo scusa. Vi chiedo scusa. Cioè, tu sei orgoglioso? Tu sei orgoglioso? Sì. Sì. Felice di rimanere nella mia beata ignoranza in quel settore. Grazie. Ho capito, però, voglio dire, Valentina. Un conto essere felici, un altro esserne fieri. Cioè, lo dicevi con così tanto orgoglio, ma esatto, orgoglio è fiero. Ha ragione, però, posso dirti, ha ragione Valentina, perché uno non deve essere fiero di qualcosa che non ha provato. Cioè, che fiero di che sono fiero di non averlo preso nel culo. Non lo escludo. Abbiamo la notizia finalmente. Ma non lo escludo, ma io Cruciani, tu l'hai provato nel culo? No, non l'ho provato, però non lo escludo, non è che sono fiero di non averlo fatto, non è che dici cazzo, non l'ho mai preso nel culo. Ma che vi devo dire? Mi devo sentire in colpa adesso, ma non ho capito, sentire in colpa perché continuo a dire che io personalmente, ma non dico a voi di fare altrettanto, ma mi fate passare per matto a me. Io per ora no, vi Cruciani, assicuro che non l'hai mai provato mai. Cara Valentina, non l'ho mai provato perché non mi è mai venuto in mente, ma non ho mai dirmi che da ragazzino non ti sei mai messo il dito nel culo. Sì, ma non, adesso non ho l'ambizione di farmi mia. Una volta ho detto tempo fa, vedi che però la testa c'era, che avrei dato una somma, così era una provocazione, una somma consistente, i 250.000 euro, non mi ricordo, per farmelo mettere nel culo. Questo è il punto. Ovviamente avresti pagato qualcuno 250.000 no, euro? No, mi avrebbero dato, se mi avessero dato dei soldi lo avrei fatto. Questo è un altro, ma che cazzo c'ha il culo di Miss Italia? Ma dai, vabbè, ho capito, ma infatti ma non invece avete anche Marische appese al culo, ragazzi, basta. Scusa, ma a te piace per esempio l'immagine di vedere, cioè ho letto da qualche parte che ti piacciono i film gay dove se lo mettono, dove chiaramente fanno queste però no, cioè hanno dei culi della Madonna, sono dei culi, sì, ma bellissimi. Ma tu guardi sono spesso, sono tondi, perfetti, sembrano dei bronzi di Riace, poi vedi. Ma che tipo di film porno guardi tu? Che tipo di film porno guardi? Se, quando li guardi? Quelli che non sono i tuoi, quelli che non sono dei tuoi amici, eccetera. Che cosa guardi? Porno gay, due uomini che si baciano, che si leccano, cioè si ti fa eccitare una cosa del genere? Sì. Vabbè, oh, per carità, ma mica ho detto niente, ma ognuno si eccita con quello che vuole. Ti ecciti con due donne che si sbaciucchiano. Ma ormai non più, ormai sai quello. Vabbè, ti sei eccitato in passato. Sì, sì, e tu ti ecciti con i porno gay, ma assolutamente. Comunque, in questo periodo c'è qualche speranza di non trombare più col tuo fidanzato, perché hai detto che il governo ti deve un sacco di cazzi, che ho trovato una cosa. No, stiamo ancora scopando, il mio ragazzo, l'ultima l'abbiamo fatta stamattina. Stamattina, beati voi. Però tu hai detto una cosa straordinaria, il governo mi deve un sacco di cazzi, che è una cosa devo dire strepitosa, cioè dire sì, i bisogni sessuali dei cittadini dovrebbero essere un problema del governo. Giusto, adesso se ne occuperà la task force, non si preoccupi. Purtroppo non se ne occupa. Dovrebbero nominare Valentina Nappi, sì, manca, presidente della task force, ben pagata per risolvere i problemi sessuali degli italiani in questo periodo di clausura. Avrebbe molto più senso piuttosto che Colao, piuttosto che per carità. Assolutamente. Come risolveresti i problemi, cara Valentina, che sono tanti in questo momento? Beh, in questo momento di emergenza regalerei un sex toy a tutti. Sì, quindi sì, ai maschietti, non lo so, dei masturbatori, alle femminucce, dei vibratori. Giusto. Non costerebbe nemmeno tanto. No, non costerebbe tanto. Devo dire che sarebbe una proposta sensata. Qualsiasi persona normale la potrebbe accettare, questa proposta. Tra l'altro, alcune compagnie di sex toy, per farsi pubblicità, stanno regalando masturbatori gratis. Senti, perché hai detto una cosa che ha fatto incazzare le femministe? Lo stupro è meglio che vivere la quotidiana. Allora, mi hanno massacrato in una conversazione di femminazzi dove si parlava praticamente di censura. E dicevano delle cose allucinanti che non avevano nessun senso. Addirittura mi hanno accusato di coprire casi di stupro. Sì. Allora io lì non ci ho visto più, perché c'era una tizia che diceva che davanti a ogni film doveva esserci un warning dicendo questo è un film, che è una cosa ridicola. Ma che, per carità, ma questa è gente che non... Allora non ci ho visto più, ho detto ma che effettivamente è vero, preferirei lo stupro piuttosto che vivere in un mondo meno libero. Ma ho capito, però non è che uno preferisce lo stupro, cioè morire piuttosto che... Sì, ma tu preferisci, no. Ti capita nelle tue fantasie addirittura di avere un'attrazione per lo stupro? No, anche se magari l'ho avuta, sembra una fantasia molto comune, le gangbang sono quello. Sì, le gangbang sono sostanzialmente... Solo che in privato diventa non scenderei difficile, su questo piano, francamente. Non scenderei su questo piano perché è molto delicato. Aspetta, non ti... In privato? A che palle sto delicato? Che palle questa cosa del delicato? Aspetta, che torno. Chiudetevi in casa e smettete di parlare. Esatto, ha ragione. Ci sono donne che hanno subito stupri e non gradirebbero la sua osservazione idiota sullo stupro. 12 ore al giorno sotto il sole, non se ne frega nessuno. Fermo, che torno tra un attimo, Valentino, torno tra un attimo. La zanzara. A corte, fammi risentire il tipo delle mutandine di Valentina Napi. Le mutandine di Valentina Napi all'asta, 500 euro. Cioè, ma siete malati? Ma siete malati? No, veramente, cioè, ci vogliono più case di cure in Italia. Purtroppo non c'ho sto potere, ma veramente, se no ve la aprirei io una. Madonna. Cioè, 500 euro per le mutandine di Valentina Napi. E chi c'hanno? E la gente muore di fame? E uno paga 500 euro per le mutandine di Valentina Napi, che l'ha data a cane e porci. Mandate a piarvi l'inter culo tutte quanti. Barisoni gay. Fuori Crucio, sono fuori in bicicletta dopo due mesi di clausura con la mascherina, ma sai che c'è? Che pieno di figa, e ti dirò che sta mascherina m'arrapa anche un po', guarda un po'. No! Allora, con noi per il rush finale Valentina Nappi in collegamento da casa sua. E stavamo parlando di una cosa che ha suscitato un po' di polemica su internet, caro Parenzo, al di là di tutto, tra le femministe. Sì, tra le femministe nell'internet, no, eccetera, eccetera. Non sono femministe queste. Ma sì, ma a me lo dici. Perché uno la censura, sono femminazzi. Cioè, a me lo ma dici. Ma non c'entrano le femministe, fa ribrezzo anche a me quello che ha detto, che non sono un femminista. Ma tu devi scindere, cioè, quello giocare sulla parola stupro e renderlo un gradevole sogno. E rendere un gradevole sogno persone. Mi sembra una cosa di cattivo gusto. È anche una stronzata, anzi, per allora, parlare un linguaggio chiaro. La frase scusa Valentina, la frase esatta sì. è questa, la ripeto. Lo stupro, meglio lo stupro che vivere la quotidianità, che vivere dove la gente vive una quotidianità dove la gente non è libera. Lo stupro è meglio che vivere una quotidianità dove la gente non è libera. Però cominciava con e chi dovrebbe educare? Vabbè, insomma, adesso sto o andando femministe messo tra virgolette. Sì, comunque. E poi sì, quello che lo stupro è meglio che vivere una quotidianità dove la gente non spiegare. Aspetta, non è libera di vivere il sesso come cazzo vuole. Questa è la frase finale. Che come si sente una donna che legge una roba simile che magari ha subito uno stupro, secondo lei? Non è un mio problema, non è che posso invece occuparmi. Dovrebbe esserlo un suo problema. No, non è un mio problema. Perché ha detto perché una stronzata. Pur di apparire, ha detto una stronzata. No, ma che gliene frega di apparire? Rispondendo in una discussione, uno, prima cosa. Perché ci sono delle donne che non accettano, ci sono delle donne ridicole, bigotte, che non accettano che una donna come Valentina possa usare il suo corpo come cazzo vuole. E possa dire. Questo è un altro discorso. Questo è un altro tema, non c'entra lo stupro. È un'altra cosa. No, perché lì era lo stupro è una cosa gravissima. Il fulcro della discussione era quello. È che secondo loro. Secondo loro sbagliato. Allo stupro, sì, allo stupro, che è una stronzata, ci cioè sono paper scientifici. No, ma è una puttanata inaudita. In realtà il porno fa il contrario, anzi. Cioè? No, ma infatti questo non c'entra niente. Le pugnette smaltisce l'energia sessuale, quindi le persone sono più rilassate. Però tu mi stavi dicendo prima che un po' di violenza, un po' di stupro ti attrae, cioè la parola stupro, l'idea chiaramente fantasiosa di qualcuno che possa usare violenza su di te un po' ti attrae e attrae magari altre persone pure. Ma allora, io non sono per nulla masochista. Nel senso che sul set mi dai uno schiaffo, sì. Allora, se mi stai trombando a 100 km all'ora, mi dai uno schiaffo sul culo, ci sta. No, è un po' come dare la fusta al cavallo. Vabbè, ci saranno degli accordi. Sono sì, certo che sono gli accordi. Mi danno fastidio quei tizi che cominciano a schiaffeggiarsi così come se volessero fare la lotta. Allora lì comincio a rispondere. Sì. Mi è capitato di dare anche calcine alle palle. Ma no, in generale non è che pensi che possa avere del fascino lo stupro, cioè essere violentata da qualcuno. A me non piace, però ho che amano un certo tipo di pratiche, ma se non è stupro, quindi stiamo parlando. No, a nessuno piace, guardi, sta dicendo una stronzata. No, non è vero, a molte no, non è vero, lei sta a nessuno ti sta dicendo che è una stronzata. No, ci sono uomini masochistici, ci sono donne masochisti, ma non è stupro perché c'è il consenso. Ma quello è tutta un'altra cosa, non c'entra nulla. Il problema è un altro, è che nel momento in cui c'è un'interpretazione di quello che si vede e in quello che si vede ci si vuole per forza vedere la violenza, quello che si vuole vedere. Sì. Lo stupro è violenza, appunto. Vediamoci la cosa sulle parole. L'atto dello stupro è un atto violento, non c'è filosofia da fare. Ma sì, ma quello... Tutto il resto, se uno è libero di farsi calpestare, ha voglia di farsi calpestare, viva, chi se ne frega. È un altro settore. Lei veramente, secondo me, ha perso un'occasione per dire ho detto una stronzata. No, lei secondo me ha perso un'occasione per dire ho scritto una stronzata. Mi è uscita male, come esce a tutti noi. E anche lei le è uscita una grande stronzata. Ma faccia quello che vuole. Ma ha perso un'occasione per dire ho detto una grande stronzata enorme. Avrebbe fatto più bella figura. Non l'ho detto. E voi cretini, ogni volta che uso la parola vabbè, stupro, per carità, tutti i giornali, tutti col ditino alzato, saranno tutti cretini. Allora, sono intelligente solo lei ed è intelligente solo lei. Scusami Valentina, ti posso dire una cosa? Mi piacerà, ma invece è una provocazione. Ma baciami il culo. A proposito di pissing, non è che è una pratica che ti aggrada pure questa, no? Allora, io l'ho provato soltanto una volta con una mia collega che ha delle manine piccole di fata. Perché poi sai c'è tutta no pissing dicevo di dicevo pissing ah pissing ho pissing. Capito pissing. No fisting è un altro no. L'ho provato col mio ma non mi attrae non ti attrae solo degli attrae. Altri non l'ho mai bevuta però non ti attrae come pratica sessuale. Invece cos'è che ti dà la gangbang di cui sei praticamente un simbolo quasi nel mondo? Ma ragazzi, ma quando mai? Ma in 10 anni di carriera ne ho girate 3-4, ho capito, però la tua nomea è anche relativa a delle gangbang. Sarà, ma cioè, girare le gangbang costa, non ci sono i fondi. Io vorrei girare più spesso, ma appunto, non ci sono i soldi. Ma che cos'è che ti dà di devi più? Devi dare 1000 euro ad attore. E che cos'è che ti dà? Cos'è? 10.000 euro per... Non si girano più, cos'è che ti dà di più rispetto ad altre cose? A te piacerebbe trombare con 10 femmine contemporaneamente? Un po' faticoso, amica mia. Beh, non lo so, quando avevi 20 anni ce l'avevi questa fantasia? Sì, forse 10 no, ma insomma 2-3 sì, uguale dice, è la fantasia di essere trombato da più piselli in contemporanea, dici. Cioè non è niente, no. Non è niente di no, particolare. In realtà c'è cioè, sì. La doppia penetrazione è la posizione più bella in assoluto. Qual è la posizione più bella? Quella? La doppia penetrazione. La doppia penetrazione, dice, è il top del top, la doppia penetrazione. Sì, cioè non c'è nulla che ti fa godere come la doppia penetrazione. E questo è interessante. Senti, quindi, ma tu prima hai alcune scene di più effettivamente più goduto che nelle gangbang. Perché tutto davi sono meglio di 15. Sì, non c'è dubbio. Non davi. Senti, un'ultima cosa, ma prima in un'intervista con l'amico Saverio Raimondo pochi giorni fa hai detto che prima del lockdown hai fatto un'orgia con Rocco Siffredi, non credo, era una provocazione, non penso che hai fatto un'orgia a Milano con Rocco Siffredi che... No, da qualche parte ho fatto una cosa con Rocco, cosa mi sembra ma anni fa. Anni fa, quando anni ancora fa, quando ancora eravate in buoni rapporti. No, vabbè, ma diciamo non è mai stata una cosa personale da parte mia, ma non siamo in cattivi rapporti. No, no, vabbè, era anni fa, avevo capito. Comunque, avevo capito. Sì, anni fa abbiamo girato a Milano un'orgia con i fan. Vabbè. C'era tipo la scintilla di una cosa del genere. Senti, invece, la prima cosa che vuoi fare quando riprendi a girare qual è? Ce l'hai una fissazione oppure uguale? Cioè, quando riprendi a fare scene, eccetera. C'è una... Io non che scegliere. Non ho capito. Temo che non starà a me scegliere. Non starà a te scegliere, cioè. Cioè talmente crisi, dici che se ricominci alla fine dovrai accettare, non dico quello che non ti va, ma insomma dovrai accettare quello che ti propone. No, non è quello. Io devo dire, cioè sono fortunata perché sto lavorando anche da casa, anche perché sono tutti a casa a fare le pizze. Sì, quindi sì. Video vendono. No, non è quello il problema sono posti. Temo chi aprirà, chi non aprirà, in quale paese. Ah, quello sarà eccetera. Quello sarà un casino. Senti, le chiese intanto, le chiese vogliono riaprire, a proposito di riaperture. Le chiese vogliono riaprire. Possiamo riaprire tutto e possiamo anche morire tutti, cioè non frega un cazzo. Ho capito, però ci sono alcuni che vogliono andare in chiesa, amica mia. Cioè tu sei non sei contrario alla riapertura delle chiese. No. Ma chi gliene frega? Devono aprire anche i cinema, i ristoranti, eccetera. No, ma non c'è dubbio, allo stesso modo, sullo stesso piano, eccetera. Ma comunque, per me ragazzi, possiamo riaprire tutto, morire tutti, non ne frega un cazzo. I sessuologi ne dicono di tutti i colori. Oggi ho letto un sessuologo, per concludere, catalano, che dice che non dobbiamo slinguare con uno sconosciuto, che non dobbiamo usare che dobbiamo usare la distanza, dobbiamo stare attenti, ci stanno facendo Come? Ma tu hai paura adesso, per esempio, di trombare qualcuno? Avresti paura? Cruciani. Ma dopo 10 anni ho trombato sui 7 mesi più pochi, perché quei cazzo di americani non sì, ma spostati un attimo che ti sento meno, forse ti sei spostata, forse mi rimetto in cuscino. Sì, rimetti prima, sì, vai. Che dicevo, dopo 10 anni torno. Niente, si sente vai bene. Dove eri prima? Si è spostata evidentemente. Mi senti? Sì, ti sento, vai, dimmi. Dicevo, dopo 10 anni di porno, dopo che ho leccato lo sperma dal pavimento, puli di migliaia di persone. Tu dici posso aver paura del coronavirus? Dici no, effettivamente devo morire. Effettivamente è vero. Ciao Valentina, abbraccio, ciao. Cristian dalla provincia di Pesaro, avanti tutta ragazzi, che serata, che serata. David, comunque hai attaccato sullo stupro, devo dire che hai attaccato, hai attaccato. Cristian, provincia di Pesaro, vai, dimmi. Sì, ciao, volevo soltanto dire che ho sentito oggi che la Coldiretti ha lanciato l'allarme. Passiamo dalla nappia alla Coldiretti, dimmi, 40%. Ha lanciato l'allarme che il 40% degli ortaggi della frutta sta andando a puttane, no? Sì. E nel frattempo la Bellanova sta prendendo degli accordi con Bucarest per sì, vuole regolarizzare, eccetera, eccetera. Esatto, sì, vuole dunque regolarizzare. Allora, io volevo semplicemente dire che in Italia ci sono tantissime persone che prendono il reddito e non fanno un cazzo, e anzi lavorano in nero, certo, e prendono più di quello che prendo io. Mio, il lavoro dei campi. Allora, campi se devono mandare, devono fare gli autobus, visto che sti stronzi italiani vanno a vedere le trasferte in Sicilia, pagano nei pullman e vanno a raccogliere le verdure. Porca puttana. Amico mio, uno dei principali, insieme a Sgarbi, uno di quelli che ha proposto per primo l'utilizzazione di quelli che prendono reddito di cittadinanza, ovviamente su base volontaria, tu dici no, prenderli per forza con gli autobus, eccetera, questo non è possibile. Beh, per lavorare, per offrire a queste persone dei lavori anche nei campi, è stato il sottoscritto, perché uno che c'è reddito di cittadinanza in questo momento, se serve fare, se qualcosa serve, tu gli devi offrire un'opportunità. Non la prendi? Meno uno, togli il reddito di cittadinanza secondo le regole. Questo dovrebbe essere, hai ragione. Cioè, Andrea da Venezia, vai, Andrea. Ciao ragazzi. Dimmi. Bel circo che state conducendo. Allora, io sono un infermiere che lavora in sala operatoria, sto assolutamente dalla parte di Parento, sempre comunque a difendere i modi e la scienza in questo momento. Vabbè, così allora critico. Grazie, io abolirei il suffragio universale, ragazzi. Ragazzi, mi sono svegliato dopo il mio turno. Mi sono svegliato dopo un riposino, dopo il lavoro, e ho letto il giornale di Vicenza. Sai cosa tuonava? Sì, cosa? Sindaco Rucco. Ok. Sindaco, posticipa, dai, veloce, il sindaco posticipa e attende per la tecnologia del 5G su richiesta dei cittadini. La vostra libertà di espressione, che difendete tanto, è arrivata a tal punto. Cioè, ma questa non è libertà di espressione, questa è la decisione. Cioè, tu stai dicendo che un sindaco non vuole mettere un ripetitore 5G perché ha paura che faccia male alla salute, giusto? In attesa di valutazioni degli esperti su richiesta dei cittadini, siamo alla follia. No, ma sicuramente siamo alla follia. Anche all'epoca delle antenne telefoniche, purtroppo. Ma si diceva la stessa cosa. Ragazzi, ma noi che cosa c'entriamo? La libertà di espressione è anche di chi dice che il 5G fa male alla salute. Non è che possiamo impedire a quelli che sostengono che il 5G fa male alla salute di poterlo dire. Sarai d'accordo con me che lasciare la libertà di espressione a chiunque, soprattutto in un social. Ma che cazzo dite, ragazzi? Ma che disastro! Ma non c'è nessun disastro. Prenditela col sindaco. Devo segnalare che è una stupidaggine. Ha ragione l'ascoltatore. Almeno segnalare che è una follia. Ma cosa c'entra adesso il difendere la scienza col fatto che uno può dire quello che vuole, impedire a qualcuno di dire quello che vuole? Quel sindaco si assume la responsabilità della sua decisione. La prossima volta che si andrà a votare, lo manderete a fare in culo. Se la gente pensa che debba essere mandata a fare in culo, ma la gente deve sapere che è una sciocchezza. Questo è il tema. La gente Simone da Roma. Conoscere per deliberare, diceva Einaudi. Conoscere per deliberare. Che noia, ragazzi. Simone da Roma. Questa trasmissione è il contrario di questa cosa. E lui dice la stessa cosa. Questa trasmissione è il contrario. E lui è sostenitore dell'esatto contrario. È una cosa incredibile. Certo, Simone, dimmi. Allora, d'altronde Parenzo lo conosciamo bene, tutti, no? Quello che fa le polemiche sulla Bottega e la Hunziker. Ma quando Genegnocchi dà del maiale a Claretta Petacci in diretta nazionale con Spazio Corriere, per lui va bene, quello va bene, quello dice lo criticai all'epoca, ma che criticasti. Comunque gruppo, parlo di cose serie. Dimmi. Prostituzione a Roma azzerata proprio, no? Beh sì, abbiamo sentito prima qualche giorno fa l'amica Susanna, ma in generale è azzerata perché la gente non vuole i contatti ancora umani, la gente ha paura dei contatti, cioè la gente ha paura dei contatti e dunque ha paura pure di andare a Zoccola, poi ci va lo stesso perché ci vanno... Perché la Petacci l'errore... Ma chi se ne frega, Simone, dai, non torniamo indietro di 50 anni, dai. Non ho capito, che cosa hai detto? Mancano le prostitute. Sto coglione telefona per la Petacci. E poi va pure a prostitute, parla di prostitute e di Claretta Petacci. Dimmi rispetto a lui. Ti chiamo domani, Simo, perché qui sono finisce a bordello. Culo, finisce a bordello. Italiani! Ciao anche tu. Italiani!